Allora, buonasera. Buonasera. Vedo un po' lentino, però benvenuti in diretta con Tycoons and Dragons, RIP GDR e La Maledizione di Katta, episodio numero 39 39. XXXX. Non ancora, XXXL. Cosa? E non Prossimo stavo episodio guardando sarà se secondo me il podcast sta XXL, facendo cagare. quindi c'è cioè, extra large. Dobbiamo inventarci qualcosa. Sigla Diretta. riguardo, devi cercare una sigla. Allora, boh. Secondo voi si vede? La diretta dici? Boh. No, è stato finalmente Marco, dovrebbe essere arrivato. Il disturbo nella forza. Sì, esatto. Sta arrivando con uno shuttle, Sì, c'è credo. tutto lo so. Ma Per Adesso ora no. sentiamo. Allora, cazzo. Leggi, scusa, non c'è troccato, però leggi l'ultima No, io notifica che perché mi è arrivata. la degusteria. Il piano in Metodino pizza ha Pizzas. cambiato forse un po' di... Un po' degli hamburger a pizza, adesso direi che ha cambiato Sì, però parecchio. questo non è quello vero. No, non capisco se ci sono le Non ho impostazioni. tempo, A aspetta Giulio io. piace il video di Tycoons and Dragons, bravo Giulio. Sempre Fidelis. A noi! Ah no, scusate. No, allora. Proprio ieri sera mi rivedevo il pezzo del se è arrivato a 10 like, vi faccio salire di livello. Bastardo, questo le riguarda che hai Bastardo. sentito! Che bastardo! Ti vediamo. Ma perché non... riguardi anche subito, Devo maledetto. rifare, dovrei rifare i vari riassuntini per gli È articoli. diventato La Maledizione di Katta 31. Quindi Manca una X. aggiorna Comunque informazioni. invece, se non vi ricordate cosa succede nella puntata di Bene. Lex Arcana, andate a leggervi l'articolo che c'è un esauriente dettagliata nella descrizione. La citazione dovremmo coglierla. Dipende se quanto siete bravi. No, non abbastanza. No, io le Grazie. cose che mi mandano a Sì. catta, cioè le leggo volentieri, ma non Almeno. capisco mai di che canzoni Hai dato sono. una traduzione, Sì, immagino. esatto. Quindi Vabbè, Massimo cercarle. l'aggiungerò Testo dopo. d'inglese. Anche Comunque, il perché la gioco, mia il cultura titolo dovrebbe musicale è molto esserci. scarsa, cioè non Poco male. ammetto. Allora, Vabbè, che c'è dire? un settore diverso. Che dire, a parte che Che siamo i soliti, con i dire? soliti Strong, problemi, a solito. volte un po' diversi, ma sempre problemi. Vezzi sta impegnando a morire prima dei Io... 30 anni. Sì? No, ma i 35 era la sua data. Ma mi sa che ormai la chiudiamo qui. Qui, adesso, in diretta per voi. È stato Potrebbe un succedere. piacere aver Comunque, conosciuto. per il momento con me Andrea Giacomelli Chiaramologna ci sono Giulio Bosi, Enrico Cretabriga che ci farà da master, Stefano Gamberoni in Che ci attesa di farà andare? Francesco Arcidiacono, Ci fa da Casberg abbiamo Edoardo Saladini e da Paulana abbiamo Marco Bosi. Detto questo, Bello senza ulteriori indugi, quest'aura che ha tuo fratello, questa luce, bello. senza ulteriori Hai visto indugi, questo l'alone di luce? Oh! Cazzo, sta sì, usando la forza sul serio. sta facendo anche molto così. Ed è questa. E questa è la sigla che ci porterà avanti in questa Mi sa che sei puntata lontano dai miei gusti. dove Katta e io faremo una gara a chi si addormenta per primo, Esatto, e oggi probabilmente. potrei vincerla Chi veramente in collasserà? fretta. Fatemi su un pezzo E... carico per questo, per aiutarci. No, questo è per conciliare. Riassunto della scorsa volta, lo vuole fare qualcuno? Lo faccio io? Ognuno fa il suo, se siete andati ognuno per conto suo. Beh, io e lui. No, tu fai anche il mio, bravo. Il primo è stato Race. Intanto possiamo dire Vabbè, che no, arriva. aspetta. Esatto, il Intanto preambolo. possiamo dire, possiamo Possiamo dirlo, dirlo. posso Possiamo dirlo, dirlo. ok. Lo possiamo dire che siamo arrivati alla torre Da dove era. genitori possiamo dire. Possiamo dire. Siamo arrivati alla torre. Di dove c'era Irina una volta. Non. Spoiler. Non c'è Irina. Non c'era Non Irina. c'è Irina. Non c'era Irina, l'abbiamo cercata, non c'era, niente da fare, siamo usciti. Fanculerina. Siamo usciti Pensando chi se ne frega con la fanculerina. volontà di tornare indietro a cercare Eric Tapio o qualcosa di simile. No, sul cellulare. E vabbè, Vabbè, però l'hai preso in piedi, sembrava voluto. prima. Se ne frega una goccia. Allora, salute, cioè, quello che rimanda. E coronavirus, esatto, è contagio in diretta, sta avvenendo da me. Babbabina. Dalla torre, non trovando Irina, volevamo tornare indietro. Tuttavia, è arrivato il nostro antagonista, la nostra nemesi. Il nostro migliore amico. Il nostro migliore amico. Quando non finalmente sono arrivati i rinforzi. Il Conte Strad. Quando non sa cosa fare. Il Conte Strad ci ha chiaramente bulleggiato chiedendoci un pedaggio. Tuttavia, ha usato parole che potevano intendere altre cose. Infatti, ci ha chiesto una testa per una testa, cioè una testa per passare, per una testa che passasse il ponte del lago, insomma, sostanzialmente, che ci permetteva di tornare alla foresta e così tornare magari anche a Kretzk, evitando quei 150 miliardi di discorso. E ci sono state varie interpretazioni, l'unico che l'ha interpretata giusta è stato sostanzialmente Race. Non è vero, io ho fatto un sacco di tentativi, no, infatti, tutti ho geniali. Detto l'unico che l'ha interpretata giusta. Il chiodo, cioè, la moneta. No. È stato Race che ha lasciato una testa di una bambolina ed è passato senza colpo ferire. Esatto. E poi è seduto lì ad aspettare. Esatto. E ha fatto tutta la puntata così. Per quanto riguarda invece il buon Atanas, il vuoi dirlo tu? Il braccio destro di Strad, suo caro amico Strad, gli ha chiesto un favore. No. Atanas è andato lì un po' scocciato e ha rivangato la storia della sua faccia, del bambino angelo figlio del Bogomastro di Kresk. Strad, sembrava non sapesse un cazzo, facesse finta di non sapere. Anche quando Radi ha attaccato, ha fatto tipico di Radi. Vabbè, normale. Tanta tipicità. Esatto. Allora Atanas ha chiesto a Strad che cazzo volesse per farlo passare. Una testa, vabbè, dimmi quale, te la do. E allora Strad richiede la testa di Casimir. Allora Atanas torna indietro e inizia a parlare stranamente, inizia a parlare con Casimir inspiegabilmente. Solo a parlarci, questo è inspiegabile. Mentre Varistran è impegnato a cercare teste di gargoyle. E quasi convince Casimir a rassegnarsi e lasciarsi morire, ma poi fallisce miseramente. Tiro. Ma dovevi convincere il tuo ma tu eri impegnato da fare altro, tu cercavi la lucertola. Oh, catturavamo più e quindi no, prendevo le teste di gargoyle. A quel punto tu arrivi, dai la testa di gargoyle a Casimir, che scappa dicendo voi siete troppo deboli a questo punto. Mi pareva però, vabbè, sì. Ha detto siete troppo deboli. Strada sì, non si è presentato quando è passato. Ah, no, quando è passato lui non si è presentato. E lui è continuato. È cominciato a correre. Esatto. A quel punto mi sono tirati i maroni. Ho provato anch'io con la testa del gargoyle, ma non funziona. A questo punto allora sono partito dritto per andare. Ma lui sono ricordiamolo. Ma sfortuna ha deciso di seguirmi. Io ho avvertito dicendo guarda, è a tuo rischio e pericolo. E lui ha detto vabbè, sti cazzi. Secondo e terzo no. Esatto. Quindi mi ha seguito. Io mi sono un attimo fermato lì al tavolo, lasciando, scrivendo sto andando a prenderti la testa. Non rompere. Non rompere. Non ho scritto non rompere, ma il concetto era sto andando a portarti la testa, lasciami passare. E arrivati all'altra estremità del pontile c'è la nebbia che ci avvolge e si sente la voce Strad che fa uno di voi deve rimanere qua. Allora io spingo sfortuna in acqua. A quel punto posso passare e vado avanti. chiedo a Riz dove sta diretto Casimir, che me lo indica e io lo inseguo. Sfortuna. Si ritrova in acqua, poverino. Io sono stato buttato brutalmente in acqua. In modo molto scortese. L'unico tanto gentile da tirarmi su è stato Strava. Vero. E poi mi ha anche offerto la cavalcatura. Per il record di splittare i parti. Sentiamo. Esatto. Dicendoti di fare una cosa. Sì, di riprovare a evocarlo come ho fatto con il padrone. Esattamente. Per avere la tua vendetta. Ricordo bene? Esatto. A quanto pare. Quindi sei salito su Bucefalo. E spengo. E sono ricomparso davanti ad Aci. Ho detto: ehi, ciao, dove sono gli altri? Esatto. Perché adesso tu effettivamente di piani astrali ne capisci più di tutti. Ma tirami uno. Di arcano non ho tanto, però da background forse. Devi guardare De Magia. Però comunque capisci che quel tipo di destriero, l'incubo, è in grado di passare a piacimento davanti e indietro dal piano etereo. E quindi praticamente può, come se scomparisse in un punto, ricomparisse nell'altro, passando attraverso quello che c'è in mezzo. Scusa, la spiaggia? No, scusa. Sì. Wow, non darmi queste idee. Questa campagna va. Già abbastanza. E quindi ti ritrovi a Kretzk, incontri Pak e gli dici: va tutto bene, se mi ricordo. Pak, gli era arrivato un messaggio: non abbiamo trovato Irina, stiamo tornando indietro. Esatto. Sfortuna arriva, stanno cercando Irina. Questo, questo è quello che ho fatto io. Sì, perché sì, lui in quel momento era vero. Sì, però lui è arrivato dicendogli: sì, stanno ancora cercando Irina. Quindi... Puoi dire del tutto esatto. Arci era un po' perplesso, ma. E questo ci ha rimandato subito a: vai dagli elfi e convincili che Kresk è un posto sicuro. Salve elfi, Kresk è sotto assedio, andiamo ad aiutare. Venite. Bene. Quindi sfortuna se n'è andato, rimanevano i due piccioncini. I due piccioncini. Di scaldare l'acqua. Abbiamo provato. Abbiamo provato diverse teste, tra cui quelle di pesce, perché io abilmente ho anche pescato e non ha funzionato niente. Non è vero, qualcosa ha funzionato. Sì, in pratica mi sono presentato per l'ennesima volta da Strad, dopo la moneta, dopo il chiodo, dopo il pesce, dopo diversi tentativi, e in pratica l'unica testa che voleva da me era una lancia, che non è una testa ma voleva da me un oggetto quella di pesce l'ha presa. No, lui ha accettato la testa di pesce e più ti ha chiesto. Sì, esatto. Bastone. Ha voluto un bastone, è una lancia magica. Bastone per... quel bastone, dai, quello che... Un bastone. Quindi per... io gli ho detto di no. Per arrostire la testa. Lui, di tutta risposta, mi ha... Ti ha ricordato che è il tuo migliore amico. Mi ha magica buleggiato e mi ha detto: benissimo, dammi la lancia. E ho detto: certo, quel problema, cioè, gli ho dato la lancia e sono passato tutto contento. Per quale motivo non dovresti fidarti di lui? Esatto, infatti non capisco anche loro perché sono così restii. Ti ha fatto passare. E poi, per ultimo ma non meno importante, è rimasto Vardis, che avrebbe preferito rimanere sull'isola. Ma nel senso che a quel punto pensavo di dovergli dare qualcosa che effettivamente per me fosse importante. Però non bastava, anche io gli ho dato due cose, gli ho dato anche la però testa del ci sta alla fine, in fondo non sta cioè ci sta che il malvagio ora hai un motivo in più per ucciderlo e riscattare ciò che è tuo, sia ingannevole, cioè Irina. No, e no, gli avevo dato il mio simbolo sacro, esatto, impegno, che appunto presenta una testa di un una testa, diciamo, che ricorda quella del sole, la faccia del sole, solo dei Teletubbies. Tuttavia Strada ovviamente quello se l'è preso, e poi però ha voluto anche che gli dessi l'ascia perché era magica, e quindi a quel punto, non potendo combattere contro il gioco, potevi dirgli no. Potevi dirgli no. In realtà a me dispiaceva di più il fatto di aver dato il medaglione, che non sia servito assolutamente a niente, perché è stato ovviamente umiliante, ma penso che non ci Magari fosse la era quello sua... lo scopo. Esatto. Era quella la sua Sì. volontà. E niente, quindi sono passato anch'io e niente, L'unica adesso sono... cosa, scusa, tecnica, sono ancora sciarmato per quanto sarò così. Fino al prossimo riposo. Ok. Quindi... Adesso Bellissimo, perché non riposiamo mai. il nostro gruppo non ha più armi magiche. Esattamente. Erano le uniche due. Sì. Vabbè, basta andare a comprare. Ah, farcele fare. Ah, che bella la parola. Molto bene, sotto a chi tocca? Beh, Allora. raga, io propongo di andare a casa di Strad a ringraziarlo. Visto che ci ha trattato così bene. Sì, secondo me sì. Stavamo tornando alla cosa, alla città. Non lo so, in teoria. Cioè, vabbè, io gioco Tranne da Giulio. sciarmato, quindi. Bene, quindi siete voi tre viandanti sulla strada, depredati di quello che avevate di più caro. Dove sono andati Casimir e Atanas? Noi siamo con Reis, no? Sì, Siete con infatti lo Reis, chiedo a Reis. Bardi, Strangarrosh e Ma ve l'ho già detto, rega. Atanas e Casimir con Vabbè, la foresta. stiamo ruolando, Mi quindi. Ve rullerò l'ho già senso. detto, rega. Casimir. Ma dove sono? Cioè, in che direzione era quello il senso della mia domanda? Casimir è andato di là e Atanas ha seguito. Ed è che la direzione. L'unica direzione però Verso Atanas, presto. da qui. Però Direi però che non secondo dobbiamo me perdere c'è più un tempo viaggio in in camminarci. area. Vogliamo seguirli? Chi è Giovanni Andreoli che ci ha scritto buonasera a tutti voi? Buonasera Buonasera a tutti. Giovanni. Giovanni Andreoli. Non so, però buonasera. Buonasera. Sera. Sera. E invece sfortuna? Non Sposa. Ma che l'hai cos'è? visto? Anche lui è È uscito un follower. dall'isola. Ah, Non capisco. sì, no, è un follower. Un Follower. nostro Un nostro vero vero. follower, grande. Ok, quindi non sappiamo nemmeno dov'è lui. Beh, Facciamo mi piace a andiamo, caso. andiamo nella direzione di intanto di dove sono andati Atanas sì. e no, chiedevo anche dove è andato Sfortuna, anche lui è sparito. Lo so, però Non sappiamo dove è comunque andato. direi che gli altri sono andati giustamente verso Kresk. Andiamo. Non giustamente, non ci hanno aspettato, ma... Sì, però è Dai, strano mi che fai... Casimir sia uscito senza dire un cazzo e sia scappato. È andato via di corsa? Non è normale, visto che in teoria era un nostro alleato. È strano, Cioè, da sicuramente. Atanas me lo posso anche aspettare. Infatti, quello Da Casimir non tanto. A te aveva Va detto bene. qualcosa? Io non mi ero reso conto dello scambio loro di battute, in realtà. Erano No, lontani. nessuno di noi. E i suoni erano attutiti dalla coltre di nebbia. Cioè, magari abbiamo Difficile. visto che erano vicini, ma non del fatto che parlassero. Difficile dire. Sì, difficile fare. Beh, proviamo a Bene. pensare, intanto che camminiamo, Ok, che quindi vi scopo avesse inoltrate per il cercare sentiero ricercando le tracce dei di. vostri Sì, facciamo un compagni. perception. Faccio un Un survival. survival. Vai in survival. Al quale dovreste avere qualche Faccio bonus. survival. Computer. Non fare survival. Andate bendati. Che ci conviene 13. contare. 13. Ti ho detto di non fare survival. Non so, mi puoi aiutare. Se mi aiutano, Annusa. vantaggio. Beh, non ho Non survival. è qualcosa di tuo per le tue cose barbariche, mi ricordo. Vabbè, comunque. No. Per quanto riguarda il Segui il tuo naso. Comunque. Peregrino, tuk. No, per quello Cominciate a vagare nella foresta. no. Ma scusa, tu non sei l'esploratore? Non mi ricordo. Sì, lo sono. Questi momenti di Alzheimer. Improvvisamente. Nell'altra campagna l'esploratore. Cominciate a sentire ululati provenire dalle fresche frasche. Esatto. Dopo la palestra di Arci. Tutto qui. Ah, perché gocciola da lì, ho capito. Ah, freccia della chiesa. L'impaccio di Giulio che mi guarda come se fossi uno senza speranza. Cazzo, Sentite alzato da tagliere, sembra che stessi alzando chissà cosa. che ci sono degli ululati provenire da dietro di voi, in Andiamo lontananza. Una avanti, ignoriamo. volta sarei potuto No, essere io, però molto vicini. non Ragazzi, troppo che vicini, ma aspettiamo? non siete fuori dalla distanza di sicurezza. Irina e la sua crew. Irina, scappiamo. Vabbè, non abbiamo. Ciao Ambra. Comunque. Roba. Grazie del messaggio. Vabbè, andiamo. Non lo so, ci appostiamo, facciamo una sorta di agguato, ma ci stanno seguendo, quindi non. Quanto pesa questa tazzina? ti capisco. Tu cosa consigli? Tu sei lo stratega. Cosa? Rega, dobbiamo. Le tracce non ha trovato niente. Non avete ancora trovato la pista, anche perché è difficile da trovare. Siete stati interrotti da. È buio. No, è ancora giorno. Però c'è la nebbia, quindi non si vede. Comincia ad essere pomeriggio. E non so, decidiamo di affrontarli. Io non Quanti sembrano? Abbiamo un'idea. Cioè, 3, 12. Ce n'è più di una fonte di ululati. Vabbè, nascondiamoci, se no. Era quello che pensavo. Ecco. Potremmo allora, anche sentiamo in lontananza, però non sappiamo. Disse l'Arcan Trickster. Potrebbe Perception capire. L'abbiamo fatto? Non mi sembra. No. E questo fa le cose. Facciamolo. Il mio è un 8. Il mio è un 8. Molto bene. Ok. Salla fai 8 così. Io è meglio se non tiro, mi sa. Beh. Vabbè, Perception. 4. Oh, ok. Vabbè, abbiamo fatto 20. Pensate di sentire almeno 4 tipi di ululati diversi. Rimanere fermi potrebbe essere la nostra. Sono 4 specie di lupi diversi. Magari la stessa specie, ma hanno dei timbri. Non lo so come funziona l'ululato dei lupi. Non sono un cazzo di biologo. Un ulula come Yak. Come ulula? Non è molto da lupo Yak, in realtà. È più una sorta di scimmia di qualche genere. Quello richiede anche un tiro di paura. Riconoscete uno yak da vicino? Vabbè, io gli prendo la pelliccia, però nel caso è. Non ha la pelliccia. No, il cappotto di armadio. Esatto. Anzi, la giacca è destrutturata. Non lo so, a me non è destrutturata. Non è brutta l'idea di nasconderci. Può essere controproducente, nel senso che. Che sei circondati dopo. Sì, anche perché loro hanno sicuramente degli. Diciamo delle capacità però se sensoriali a quanto pare superiori alle nostre. Se ci arrampichiamo su un albero non ci raggiungono, però rimaniamo no, lì. A quanto pare adesso abbiamo fatto che ti diverto. No, scherzo, ovviamente. No, io. Io continuerei ad andare avanti in modo circospetto, tenendoci sul lato della strada. Camminiamo in modo sincopato. Perché comunque dobbiamo arrivare a Crete. Quanto siamo da Crete? Come ore più o meno? Fai conto un'ora e mezza? Di più. Siete. No, sono. Non erano 4 o 5. Ah, ok. Coi cavalli erano tipo 2 ore. 3 e mezza. Non lo so, oggi tiriamo e li affrontiamo. Ci giriamo e affrontiamo, però non sappiamo dove siamo. Ma ci sono ben 4 tipi di lupi diversi, cioè non sai quanti sono. Li stupriamo. Cioè l'unica è andare avanti in modo. Cioè sappiamo che comunque sono attorno a noi, quindi. Continuiamo ad andare, armi un po' più pronti a combattere. Cioè, almeno non verremo presi forse di sorpresa. Più di tanto. Speriamo che. Che ci ignorino e speriamo anche che magari uno dei nostri compagni che è andato avanti, magari ci. Faccio tornare indietro almeno pack a recuperarci. Quindi procedete ad andatura normale. Ho capito bene? Sì. Ok. Sì, ma sono lupi. E io sono una. Tu sei tipo il più veloce di tutti. In realtà sì. Ma sì, comunque però, sono più veloce. Andiamo avanti, certo, aspetti, direi, sul lato della strada. C'è il lupo più veloce di noi a prescindere. Sì, ha ragione, alla fine sì. Pronti a combattere. E siamo lì che ovviamente ci guardiamo attorno lì per te. Con le armi sguainate. Sì. Quindi, ciao! Ciao! Attacco! Grazie. Già iniziato io, oh, che bello! Senza una descrizione. No, adesso arriva. Niente, capo, ragazzi, mi spiace. Abbi pazienza. Ma c'è il taglio al solino davvero? Raga, non ho la vostra età io. Posso prendere il tè a quest'ora, poi come dormo? No, è una tisana, è gelsomino. Fino per ora era esattamente la nostra. Cioè, è gelsomino, quindi tè tra virgolette. Tra virgolette, allora, un caffè alle sonderose selvatiche. È arrivata la linea con. Però non è molto, non è molto, cioè non ha un gran sapore, quindi se vuoi potresti usarlo come base. Ciao Salla, ciao Marco. Buco da culo. Se ho una tazza, se è ancora caldo, potresti usarlo. Sì, sì, va bene, no? Ma dovremmo fare una campagna in cui sono solo citazioni di Boris. Avventura in prima serata. Quando ah, ma io sono all'otto. Ah, e quindi volo. Quindi volo nel fight. Voli nel fight. Arrivo adesso. Prima faccio loro. Stai parlando con Marco. Esatto. Tu sei a Cresca, è arrivato sfortuna e ti ha detto che... Dopo che ti è arrivato il messaggio. Ah, sei rimasti dove siamo rimasti? Sì, siamo andati avanti noi nel frattempo. Ah, ok. Vabbè, non è tanto. Ci arrivare, abbiamo iniziato a 10 minuti. Perché sei andato da per fare voi contro chi siete stati fightando, scusami, dei lui non nessuno, è con noi, io siamo io Vez la faccenda del ponte è già finita, tutti sì l'abbiamo finita la volta scorsa, Casimir è scappato, no, lui l'ha seguito, grazie, se tu sarei come se siamo seguito. Arrivati, siamo lì, io sono in seguimento di Casimir, loro sono sulle mie tracce più o meno verso Kresk e hanno sentito dei lupi, cioè, grazie, grazie, mentre non sappiamo dove prova, non so quanto sia caldo. Sono una gallina. Proseguite lungo la strada. A un certo punto arrivate vicini ad una radura. In mezzo a questa radura c'è un grosso albero con un sacco di rami che partono nelle tutte le direzioni. Molto grosso, molto spesso. Lo sai che ora prende vita l'albero e ti seguirebbe l'ascia. Lo sai. E, sentite gli ululati dei lupi alle vostre spalle. Ah. Vedi? Dentro l'albero oh, c'è lui è palestrato, gli ululati dei lupi alle vostre spalle. Davanti a voi c'è questa radura con questo grosso albero. Ma non l'abbiamo mai vista. Ci siete capitati per la prima volta adesso cercando di evitare i lupi che erano alla vostra, al vostro inseguimento. Sta partendo la Germania, Marco. Abbiamo decollando. Questa è collegata alla strada. È il piano per il quarto Reich. Da un passaggio in mezzo alla vegetazione. Sta andando a Wuhan a recuperare i suoi concittadini. Esatto. Non l'avevate notata all'andata. Forse state passando da un'altra parte. Dietro di noi ci sono i lupi e davanti a noi c'è questa radura. Mm-mm. Però passare proprio in mezzo alla radura vuol dire esporsi chiaramente. Mm-hmm. Quindi direi di... Giriamo passando per la foresta. Sì, allora, che non so quanto sia proprio dietro di noi, proprio dietro, sì. Dietro. Ah, li vediamo sentite, adesso? No, li sentite però, okay. Sono più vicini. Cioè, allora, qui a questo punto potremmo, volendo, se pensiamo proprio più vicino, di... Cioè, secondo me ci beccano con lo stesso. Però ci prepariamo ad affrontare. Potremmo provare eventualmente se riusciamo a prendere sorpresa noi, tirandogli un'imboscata, se sentiamo che sta dalla nostra parte. È quello che volevo fare, secondo me è l'unica cosa da provare. E va bene, preparato un'imboscata, cosa fate? Ah, niente, proviamo a nasconderci. Perfetto. Ci dividiamo o stiamo insieme? No, stiamo insieme stealth. E sarà uno stealth di squadra. No. Direi di sì. Se vi aiuta, sì. Beh... Gli aiuti? Sì, Race, bravo. Cioè, vuol dire che voi due lo dovete passare sostanzialmente. Cioè? Come funziona? Che io tiro con svantaggio e quindi sicuramente non finirà bene. Ah, perché tu hai... Ah, scusami. Okay. E 20. Bravo, perché il mio è tipo un 3, credo. Sì. Se no potevate usare Varus come esca. E voi Salla? Cerchiare 27. 20 e 27. Perfetto. Ciao con 3. Persino Vez non ci vede più. Soprattutto Vez non vede più se stesso. Vi nascondete e preparate l'agguato. Esatto. Cominciate a sentire il rumore nella boscaglia da dove prima venivano gli ululati. Vedete nella nebbia delle figure quadrupedi e cani. Mi è sfiorata la vicina. Perché quando ho detto quadrupede? non era collegato. No, era capita quando sei maschilista. Giulio, vedete dei quadrupedi? No, io l'avevo iniziato prima che ero iniziato con quadrupedi. Arriva quindi la pecora. Caccia, a proposito, la vicina. Avrei detto cagna, però. Io avrei pensato a vacca. Ma per dire canidi, quindi. Io vacche. Comunque, io non ho detto nulla di tutto quello che state dicendo voi. Giulio, inutile che. Ma lui stava per dire canidi con un dito vicino. Secondo te perché ci ha fatto una campagna che si chiama Lex Arcana, che è una società maschilista dell'epoca. Veramente qualcuno avremmo dovuto fare una compagnia di donne. È stato complicato, non con i posti. Tipo ovunque. Non è mica. Nell'esercito no, ma nella corte arcana sono consentite. Sentite che Mulan è morta di coronavirus. La nonna sicuro. No. Mushu è il portatore. Mushu è il patronaggio. Quando l'hanno mangiato. Allora, immergetevi nella situazione. Sentite il rumore dei passi che passano attraverso la boscaglia, muovendo ramoscelli e foglie. Voi si siete appostati, pronti ad agire. Cominciate a sentire il respiro affannoso di queste creature. E a un certo punto, sopra le vostre teste, sentite un verso. Oh, yak! È già davvero yak. Yak! Gufo? C'è un gufo. È il cavaliere yak. Sopra di noi, che ci guarda. Che vi guarda. Poi sentite un altro. Di fianco al gufo c'è un cervo. Sull'albero. Un cervo? Che vi guarda. Scusa, cioè un cervo che fa il verso di un gufo sull'albero appollaiato. Sono uno vicino all'altro. Che abbiamo bevuto tutti il vino di strada. Non mi ricordo. Lui? No, sì. L'ho bevuto solo io. Allora non siamo drogati. Cosa? L'ho bevuto solo io in strada. Me ne sono anche portato sul dietro. Il coronavirus che era già uscito il 9 dicembre. Sembra uno schifo. Cosa? Il gufo no. Il cervo? Sì. Sentendo questi rumori, sentite i lupi che si fermano e poi cominciano a correre nella vostra direzione. Il cervo ha fatto lo stesso verso. Il cervo ha fatto lo stesso verso, ma adesso. È un cervo gufo. Cioè, se c'è l'orso gufo, c'è anche il cervo gufo. Aveva mandato sto studio a Giulio, quindi Giulio scriveva già tutto. Non ha detto niente. I lupi cominciano a correre nella vostra posizione. Ma non so la linea diretta con vedete sia. Il cervo quanti cominciare a mutare la sua. Quanti lupi sono? Le hanno distinti almeno 4, ma nella nebbia chissà quanti se ne nascondono. Ma sono di dimensioni normali? Sembrano invernali. Sono di dimensioni normali. Sì. E cresche. Wolf. Come ha fatto a pubblicare? Non lo so, devo andare a cercare se è vero. No? È vero. Questo è il manuale sbagliato. No, in effetti. No, probabilmente sapevano prima. Sì, ma molto prima. Sì, un anno prima. così imparo a non tenere il segno dove voglio. Basta che fai così, fai lo giro. Quanto taglio? Più o meno i tempi di pubblicazione quanti sono per una roba del genere? Dipende dal giornale, però cioè un mese mi sembra 54. 76. No, vorrei dire che almeno 2-3 mesi sarà stato. Di solito almeno un paio di mesi deve metterci. Perché tra l'editor che lo riceve, i reviewer che lo leggono, i reviewer di solito hanno 30 giorni per esprimere. Ok. Vedete questo cervo appoggiato sul ramo. L'hai trovato? Spammi. Che cambia il suo aspetto fisico. Le sue corna diventano capelli e le sue, la sua pelliccia diventa una tunica nera e la, assume la forma umana di questo tizio pelato con, le, con la chierica, diciamo, un sacco di capelli scompigliati, dei baffetti e un pizzetto. E i suoi occhi risplendono di energia arcana. È l'uomo cervo che lotta contro il male. Non ha paura. Mentre i lupi si avvicinano, lui dice: pensate che la mia magia si sia indebolita? Beh, dovrete ricredervi. E scaglia un fulmine contro di lui. Contro chi c'è di sotto. Tranne me. Tranne me. Tranne me. E allora prima fatevi un'iniziativa e poi un tiro salvezza su cui avete un bonus, giusto? Sì, certo. Più 3 20. Sto guardando, io ho 12. Cosa? Stavo guardando 10. C'era scritto un paper, cos'è? Non sì, Marco, ma perché c'è così tanto casino che viene da te? Sta decollando, Giulio. Non è la ventola del computer. Marco, ma quando gioca non puoi mettere il pilota automatico. Decisamente. Sì. Beh. C'è un po' sempre, però. Sì, c'è un prova a togliertele dal. Sfilatele dal culo, tienile fuori. Ma dici che l'aria che passa da lì. Ah, è già sfilato, posto. Beh, perché il microfono è più potente. Allora, questa era la vostra iniziativa. I vostri tiri salvezza sulla destrezza. Sì, sulla destrezza. Allora io ho vantaggio. Sì. Avete un più 3 anche. E anche un più 3. Cosa vi lamentate? Anch'io ho un più 3, però. Bravo, Benz, dacci questo più 3 durissimo. E se non ce l'ho, aggiungo solo la destrezza pura. Ah, un po' devi da paladino. 16 più 3, 19. Oh, non ho capito. Ancora è una buona domanda in realtà, avendo perso il coso. Ce li ho? Beh, quello non ti serve per fare. Ti serve per lanciare gli incantesimi. Per fare dai, fallo cosa. Diventare un paladino decaduto, è molto più forte. Vediamo come si comporta. Quindi tipo gli smite non li posso usare. Non lo so se ti serve. Forse puoi ancora di sicuro bruciare gli ebrei. Esatto. Cosa? Ma anche gli slot per fare più danno. Quello di slavi, super, servono incantesimi per farlo. Bisogna vedere quali ti richiedono il focus. No. Allora, io comunque se ho il più 3 ho fatto 12. Usavano incantesimi 12. Magari, no? Cioè, un'altra volta per non farvi andare in Giudea che era il giorno dell'olocausto. Race, destrezza, cioè sì, destrezza adesso non si chiamano più riflessi. Se ho più 3 di Vez, 29. Wow. Che ricorda. Immagino tu abbia anche delle buzze per non prendere nessun danno? O era ovviamente. Ovviamente, al background. È venuto in mente. Arci con Leon. Arci con? Con Leon alla macchinetta di background. Selezionare background. Con Leon alla macchinetta. Che tu vai alla macchinetta che distribuisce background. Di un euro e premi il tasto. Cazzo si chiama? Background selezionato, abilitato. 8 di 6. Ok. No, non è selezionato, non è che seleziona, è dato di forma. Vuoi scegliere il background o vuoi una scelta casuale? Hai scelto una scelta casuale. Ma parte della scelta casuale anche sceglierlo. E casualmente lo devi scegliere. Mi dai 9 di 6. Posso? Ah, 9 di 6. Serviti. Servus. 9 da 6. Cosa vuole quell'altro? Quindi chi ha passato di mezzo, okay. Quindi fai tutti 1, sono 9, 5 danni, dai. No, mi nomi Titash. È una gomma. Sì. Ah, l'hanno rushato. Immagino di sì. Sì, ma comunque l'ha rushato a fine 39 20 giorni quindi a novembre comunque 20 giorni se l'ha mandato a inizio dicembre ci sta, c'è Natale, l'editor non avrà lavorato a Natale però sì. Il fulmine infligge 39 danni. Però il primo caso, il primo caso è che piagnucolano, in teoria dicono a gennaio loro. 39 danni, chi di mezza? Io ho fatto 20, quindi di mezza. Garrosh e Vardistar no. Ma posso andare in ira? Nel tuo turno. Sono stati comunque anche, per, anche se tu hai una cosa comunque, perché dice cosa se sono sorpreso sì. Posso entrare sì, in ira sì. E non essere sorpreso, non so se questo è il caso, ma non siamo sorpresi, ci devo riguardare come funziona la... tendenzialmente direi di sì, non siamo sorpresi, sì da lui sì, sì. Tu ti aspettavi un cervo suonare? No, però una volta che l'abbiamo visto e che ha detto non siamo sorpresi. Cioè in teoria ci ha parlato prima di fare il fulmine, quindi diciamo che è stato contemporaneo. Il 10 gennaio loro avevano già tutti i pazienti, faceva parte della sua azione, del suo unico i cosi e modo di agire. Parlare è praticamente contemporaneo. Quindi avevano da 5 morti il gennaio. Ma scusate, Sala, visto che arriva ad aprire Palme dello studio, ti dice quanti pazienti c'erano nello studio? Sono 6 pazienti. Tra il 29 dicembre e il 4 gennaio. E quanti erano morti? Dell'articolo sul coronavirus. Posso vedere una cosa. C'è questo che è un articolo scientifico che è uscito. Tu Sala, eviti dicembre. Tutti i danni. Mischiamo questa cosa. Il 9 dicembre è stato pubblicato su rivista scientifica. Sala stava guardando che per essere uscito il 9 dicembre vuol dire che l'hanno messo, l'hanno mandato. Inizio novembre. Esatto, inizio novembre. E il numero di pazienti? Cioè loro hanno prima cominciato a scrivere e poi dopo hanno risistemato l'articolo quando sono morti quegli altri, per cui però comunque sono stati veramente veloci per farlo, perché c'erano 20 giorni di review. Sì, comunque vuol dire che li hanno beccati inizio novembre. Ok, bellissimo. Adesso iniziamo a dire noi, cioè, portati me. Grazie Marco. Posso guardare una cosa? In realtà mi serve, ma sono un po' ritardato. Ce l'hai vai, anche vai, tu? Vai, vai, sì, c'è anche io. Vabbè, no, ce l'hai anche vai, lui. Vai, poi dopo ci guardo io. Ah, vabbè. No, allora non preoccupare. Prendilo. Perché volevo fare una cosa a caccia, se lo voleva vedere. Vabbè, ma non è importante. No, vedete, tre lupi che vengono inceneriti. È importante. Sentite altri che scappano guaendo nella nebbia. E il vostro amico giunge, dite al vostro oscuro maestro che potrà rompere il mio corpo, ma non romperà mai il mio spirito. Ma parla con noi o parla con i lupi? In lupi. Generale. Sì, può stare calmo però. Bene. Garrosh, cosa fai? Ti faccio intanto leggere. Ah, questo. Vabbè, cosa faccio? Perché? Qualcosa che gli faccia capire che c'è anche la sua parte. Sì, stavo pensando a quello. Potrebbe essere. Ma chi è che... Non l'ho mai visto io questo. Non l'hai mai visto. Tuttavia faccio presente che attaccarlo... Ma non ha senso, no, lo voglio fermare. Potrebbe... sì, puoi farlo. Quindi cosa? Vado in ira e di mezzo ulteriormente? Quindi sì. Di mezzo doppiamente? Sì. Quindi da 39 io di mezzo e di mezzo. No, sono danni da fulmine però. Tu di mezzo danni da fulmine. Hai il totem dell'orso? Non hai il totem dell'orso. No, il totem del caprone. Mi dimentico sempre se sono solo... vabbè, io gli parlo, gli dico, fermo, cosa stai facendo? Chi sei? Ira. Chi sei? Sì, con la bava alla bocca, fermati! Quasi intimidente, però cercando di fargli capire di star buono. Chi sei? Questa domanda lo spiazza. Chi sono? Sei tu John Wayne? Chi sono? Sì, no, solo armi, solo fisici. Danni fisici. Chi sono io? Ho finito. Quindi non vado in ira. Ok. Non mi cambia niente. Non sa rispondere, rimane a chiederselo rintontito. Sta finito lo scontro. Bene, mentre avete fatto questa nuova conoscenza, andiamo da Puck. Ma solo il cervo si è ritrasformato. Sì, il gufo è rimasto, è volato via. Ah. Il gufo è caduto un fulmine a 2 metri da lui. Eh no, però dico il gufo era un gufo. Un gufo è un mentre vi visitavano uno scriveva in diretta. Esatto. Cos'è che hai detto male? Al petto? Al petto? C'era, c'era detto l'articolo. Il titolo c'era già. Scusa? Tu sei nella città. Hai appena chiacchierato con Sfortuna che sei andato via, sei sempre lì, cosa ha fatto? Tra l'altro lui mi ha detto un cazzo, lui mi ha detto di aspettare. Lui ti ha detto stanno arrivando, stanno cercando Irina, cosa hai detto? Stanno cercando Irina. Quindi tutto polleggiato. A un certo punto la guardia sulle mura chiama la tua attenzione. La mia attenzione risponde. Dicendo una persona si sta avvicinando alle mura, è un elfo. Da dove viene? Dalla foresta. La foresta di dove? Se viene da Wuhan, chiudete il portone. Portone è chiuso. Un dettaglio, scusa, lui è ancora a cavallo. Sì. Cosa? È ancora a cavallo. No, il cavallo non c'era quando è arrivato lui. Ah, ok. No, vado sulle l'ha mura. L'ha scaricato lì. E... Ah, ecco. No, vado sulle mura, mi affaccio. Fermo là. Pak, pak, urla l'elfo che sta correndo. Chi sei? Verso le mura. È il tuo amico Silvafil. Non conosco. Silvafil compresse. Sì. È l'elfo quello che accusava Sfortuna di aver dato fuoco a Villa. Ah. Che poi, visto che è stato dimostrato che non era stato Sfortuna, allora l'ha presa. Beh, tu comunque sei peggio di Berlusconi, Marco. Come un'onta personale ed è andato da solo nella foresta per espiare. Ah, così è andato veramente? Sì. In teoria era la tua parte della giornata. No, non c'ero io quel giorno che hai detto cosa sta roba. È la sessione che sono mancato. Ah, è vero, sì. Ha ragione. E... Bentornato. Infatti non sembrava una cosa molto darci. Sono andato nella foresta. Volevo rendermi utile, essere valoroso. Allora perché sei tornato? Perché ho visto. Che cazzo? No, Marco, aspetta. Tu non ho capito dove sei, se sei ancora di sotto, se sei andato a fare cose tue. Hai seguito Pat quando l'hanno chiamato? Sì, lo seguo, vuoi vedere. Ok. E ti dice ero nella foresta, ho visto combo. I vostri amici che si addentravano sì. oltre andate al fiume. A cercare Irina mentre ero lì, quando stavo per raggiungerli ho visto che la foresta si riempiva di lupi e di bestie e li stavano cercando, li ho evocati io. Okay. Allora e sono scappato a cercare aiuto, lo so, sono un codardo, dovete perdonarmi. Quanti lupi erano? Io ne ho visti dove ero, io almeno una dozzina, ma non so se ce n'erano ancora nelle altre parti. La nebbia rende tutto molto più difficile. Ho visto Simba laggiù. No, esatto. Okay. Li hai visti in difficoltà? Il peggio, non mi sembrava si fossero neanche resi conto che gli stavano per accerchiare. Ma quando sono da qua? Che lupi sono morti. Io ci ho messo facendo i sentieri che sentieri non battuti almeno in 2 ore sono riuscito ad arrivare fino a qui. Ok. Grazie per avermi avvertito. Sfortuna! È qua che parte l'azione del Boeing 737 nome Patk. Aquila gigante, prendo Sfortuna, prepara le palle di fuoco, andiamo a bombardare. Non è un buon periodo per i Boeing, se tanto devo... Andiamo a bombardare. Beh, Sallo, non potevo neanche scegliere un elicottero. Non puoi prendere l'elfo. No, fai un Airbus. No, vabbè, un Aquila di vento. No, al posto del Boeing. Sì, vabbè, riga, insomma. Il bradello alla cannoneria. A ferro fortuna per le orecchie. No, lui ha detto perché non porti l'elfo con te? Vabbè, se mi afferra. Direi che perché no, è ovvio, non può prenderlo per le orecchie. No, lui ce le ha. No, lui prendo no, Marco può sparare le palle di fuoco l'elfo. Scusate, avevo capito che fosse caso. No, è Silva. No, è Silva. Perché era così. Prendo Marco e... Marco ti fai prendere. Provo, visto che vuoi afferrarmi per le orecchie. No, no, Marco, ti afferro per le orecchie ovviamente, cioè. Se sei con viaggio piuttosto se sei doloroso. E anche molto breve, penso. Cioè, devi solo dire se vuoi o non vuoi. Ah, io avrei delle cose da sbrigare. È davvero così urgente? Ti hanno detto che stiamo per morire. Vabbè, io chiaramente non so la sigla. Io ascolto l'elfo e basta. Poi magari arrivo là che ci sono loro che stanno pisciando sulle teste dei lupi, però non lo posso sapere. Sarebbero anche tuoi amici, in teoria, però... Spesso abusiva. Non conosco da tanto tempo, ma... Abbiamo fatto una missione diplomatica a nome loro. Cioè, vabbè, hai ragione, colpa mia. Vabbè, okay. Io provo a prendere sfortuna. Chiaro, se si dibatte non è che lo cerco di strattonare. No, va bene, non lo seguo dopo questo dibattito. L'hai convinto del vabbè, potere dell'amicizia. A metà strada lo mollo. Che alla fine sei tu il diplomatico dei gruppi, l'hai convinto. Tipo a metà strada, comunque mi sono reso conto che alla fine ognuno ha diritto alla propria opinione, per cui non voglio assolutamente. Hai ragione, vai a piedi. Non voglio assolutamente forzarti. Vabbè, lo prendo e vado ovviamente a Mannaia, ovviamente sopra il bosco. Ma non può cavalcarti, tipo, che magari è più comodo. E quando sono... E lui mi ha indicato lui più o meno... No! Va bene. Perception. Non può cavalcarti, che è più comodo. Eh? Un po' cavalcarti. Io sono partito così urgentemente. Ah, okay. Poi è chiaro che se tu vuoi tirare per arrampicarti e salire, secondo me puoi provare. No, sto bene qui. Sono comodo così. Perception devo usare quella dell'aquila. Ah. Che credo che abbia vantaggio a tiri di perception se usa la vista. Ma tu vai bendato. Sì. Peccato, un attimo, pistrello gigante. Per un attimo pensavo se lo fossi inventato. Più... Infatti c'è il dubbio, mi rimane. No, ce l'ha tipo un vantaggio. C'è qua la qui. L'aggressivo. Dov'è che sei? Dare un po' meno nell'occhio, uso Silent Image per sembrare 5 aquile. Per sembrare un animale. Un animale. Tipo un lupo. Avrei preferito un pesce. Allora più 4 a vantaggio, sì. Salute. Sì, sì, hai vantaggio. Perché siete tutti ammalati. Ok. Il colore è passato dalla Metz che ha dato la tazza di terra. È vero. Possiamo studiare l'epidemiologia. Che gioia. Bene. Athanas. Allora. Oh. Tu stai seguendo quell'infame di Kevin. Sì. Fammi un survival. 13. Pietro. Noti a un certo punto su una pianta. Allora, questo file che mi hai mandato è un virus, sicuro. Sì, nel senso. Scopre di più sul virus ed hambre. Fan dei fan delle strutture ricorsive. Non è dunque un articoletto che ha pubblicato. Noti delle tracce di sangue su una pianta, sulle foglie di una pianta lungo il percorso. A un certo punto arrivi in un in una zona in cui attraversi un perimetro in cui gli alberi dentro questo perimetro, questa zona circolare, sono spezzati tutti dal centro di questo perimetro verso l'esterno. Oh, un Thunderway! No, più grosso. Più grosso. Che cazzo di successo? Ti è caduto il ferro da stiro? È caduto il ferro da stiro. È caduto il ferro da stiro. È caduto quel rumore. Che il buco che aveva fatto. Però non fosse un pensa quello del piano di sotto a cui è arrivato in testa. Si è piantato nel parquet? No, è caduto. Cioè era in piedi e è cascato sul tavolo. Ah, ok. Vabbè. Se puoi dire al fantasma di una traccia di sangue segue verso il centro di questo perimetro, dove ci sono appunto tutti questi alberi frantumati, spezzati. Tracce di alcuni avevano preso fuoco, adesso sono carbonizzati e noti anche dei pezzi di fuoco, noti delle assi di legno, la ruota di un carro. Tavolo. Investigation per vedere. No, ma Salla, ma quello che mi hai mandato del The Lancet non è quello che ti ho mandato io. Cosa? 17. Diresti l'effetto di un'esplosione. Un'esplosione. No, il documento che ha citato. Esplosione. Che si è deramato dal centro dove adesso ha investito un carro. Oppure questi sono i detriti di qualcosa che è esploso e ha lasciato il buco della deformazione. No, ma riesco a capire se questi resti di carro, cioè il carro è stato investito qui o era là. Perché sono tutti sparsi e le tracce di sangue vanno verso il centro. Vado, seguo le tracce di sangue. Vedi per terra un punto dove ci sono i resti più pesanti di questo carro. Prendo svedita. No. Le bagno nel sangue e le lecco. Sangue. Sangue di elfo. Non so come tu faccia a sapere il sapore, ma probabilmente quello che può saperlo più di tutti. Magari nel periodo che è stato un cane e mordicchiato un elfo. No. Boh, però ho mangiato parecchie cose. Vive. Lì per terra c'è il corpo e riconosci i vestiti di Casimir. È morto? È lì, sdraiato. Ma senza testa, no, che ironia! Non so se sia morto. Vabbè, qualche metro da te. Vabbè, metti che soffre, decapita. A qualche metro da me. Percezione passiva? 10. Bastardo. Prendo l'arco. Se deve succedere qualcosa prima, succederà qualcosa prima. Senti chiaramente il rumore di la ricarica della pistola. Tre creature bipedi che si avvicinano, una da dietro e due dai lati. Non li vedi ancora nella nebbia. Non sei sorpreso. Senti una voce dietro, quella dietro di te comincia a parlare. E dice: avevi ragione, Gnarl. Non conveniva mangiarlo subito. Qualche altro bocconcino sarebbe arrivato a salvarlo. Dietro di te c'è questo torreggiante bestio, un lupo mannaro, dal pelo bianco, e la sua faccia, diciamo, per parlare senza impedimenti delle fauci, ritorna umana, così che puoi vederne le fattezze. Comunque è un uomo di razza bianca caucasica. Sai che io sono goloso. Lascio a te il compito. Ok, lurido. Io sono sempre spacciato con i dolci. L'ha proposto prima. Cioè, lui sta morendo. E loro si può mangiare anche lui. I popcorn. Vabbè, ho capito. È brutto. Se poi muore, a chi lo chiedo? Esatto, è vero. In questo tizio. Kirill! Beh, è anche bello, fa l'attore, sì. Stojanovic. Stojanovic. Cosa? Parlo di carta. Infatti il mio fa l'attore era. Non li assaggi tu. Non sembrano avere segni di bruciature loro. Ma pare stanno venendo rigenerate in caso. Ah no, non hanno rigenerazione, hanno solo immunità. Ne manca uno. Ah, sono proprio in uno. No, scherzo, è stato buono. Vabbè, lui è solo che ne manchi uno. Parli. Ormai mi riesce così bene. Lui ha subito qualche danno. Ma giusto qualche graffio. di, chiaramente quindi sarà stato lui, Kevin che ha provato a difendersi. Lui arriva e dice ah, Gnarla, avevi ragione a lasciarlo vivo, ci ha portato... Sì, non hanno mangiato Kevin perché così sperando qualcuno lo venisse a prendere. Corrompi il master con il cibo. Grazie. Speravo ne mangiassi anche me, così mi sento più una merda in effetti. Allora, pensiamo. Dovrei provare a prendermi in braccio Casimir e correre. Però contro i lupi mannari. Che roba strana. Buono. Che ironia, quindi vuoi salvare Casimir? E poi mi serve la sua testa. Per tagliare la testa ci metterò un po'. Fai un bel colpo secco e via. È a terra, è difficile fare un colpo secco mentre a terra. Cioè. Prova a chiederlo. Me lo lascio, posso prendere solo la testa. Vabbè, non scrivo tutto il discorso politico che stavo guardando. Dicono qualcos'altro? Stavo leggendo, Sallo sta scrivendo, poi guardavo il monitor minacciosamente con la bava alla bocca. Ma come sta facendo? Mi giro per cercare di fronteggiare. Sallo sta scrivendo, poi guardavo il monitor e c'è Sallo così. Nel frattempo tipo al retro un po'. Scrive col cazzo. Immagino verso il centro. Avvicinandomi al centro dove... Quindi l'avranno usato per forza. I servi di Lord Strahd dovrebbero aiutarsi tra di loro. Qui non c'è nessun servo. Quindi sa che il giudice all'inizio novembre non conosceva. Ci sono i cacciatori. Sì, no, c'è uno studio che dice. Cioè, che fa vedere che avevano già depositato delle sequenze del virus. Avevano già praticamente isolato. Potreste scoprire che non è esattamente quindi così. Non hanno fatto un cazzo. Cioè, nel senso. No, vabbè, hanno fatto il loro lavoro, come dice Salla, ma. Però. Inoltre. In ritardo di un mesetto. Perché non presenti mi dire, ma non c'è in ritardo. Sì, esatto. Inoltre la sua signoria potrebbe essere contrariato da un vostro attacco nei miei confronti. Oltre al fatto che io potrei portarvi sul vaccino, dico, c'è pascoli molto più. Che cane. Almeno non adesso, ma lo stesso. Potrei portarvi a pascoli molto più abbondanti. No, magari ci sta lavorando. Va bene, fammi un persuasion. Che tempi c'hanno del deception. Brevetto e le test clinici? Sì, lo dici sinceramente? Perché ma magari no, magari in caso di emergenza, tipo una cosa tipo entro 6 mesi è capace che possono fare. Da 4 mesi. Intanto è uguale, quindi. Da quello che hanno detto. Beh, non hai specificato dove è qui. Hanno detto che in fase di emergenza. No, ma io lo dico, cioè, io, nel senso, in 6 mesi lo dico davvero. Perché non ho problemi a portarli. Poi te la dire il fare. No, tanto per me è uguale. Quindi non per sé. Ma lei quella l'ha fatta abbastanza. 10. Sì, ma non credo. Funziona. No, aspetta, c'è 10. Non so. Ma questo qua sarà una specie di anti-influenzale. Cioè, quindi non è che. Vabbè. Un po' di vitamina C ci mettono in mezzo. Sì, vivi in C con un po' di colorante, fatto. Un broncovaxom. Lupi mannari forse. Molini a vento. C'è uno che sembra il capo. Ma giù è da solo. Kirill. È più grosso e. Perché tu sei da solo? Ah, perché sei corso dietro un pazzo, Colin. E adesso? Morì. No, non dico nel gioco, dico nella realtà. Esatto. Preparo una palla di fuoco se vedo l'albero in cui sono. Ma non so che siete in un albero, scusate, se vedo loro i lupi. Questo super split sta incasinando tutto. Vabbè, sta a loro rispondermi, credo. Sì. Fammi un attimo. Cioè, palla di fuoco è ad aria, però ti li vorrei ricordare. Sì. Grandi insegnamenti. Sì, sull'albero tra Scusa, mi ricordi solo una cosa, come ti chiami di cognome? Sono per un promemoria mio, eh. Non... Non lo so. No, non intendevo nel gioco. Il terzo? che con una voce che fa trasparire una... immaginate di sentire parlare Pippo, dice: ehi, sembra un'ottima idea. Il demente, quindi. Vabbè, almeno il demente l'ha convinto. Io. Gli replica quello dall'altra parte, Gnarl. Adesso si chiamerà Pippo l'altro. E... un altro Eomer, no? Non so, questo mondo. Gli dice: ah, taci, non sai quante volte abbiamo sentito questa storia. Siete tutti uguali, voi umani. Cercate sempre di vendere la pelle della vostra specie, dei vostri simili, ma per salvare la vostra. Ma non conoscete Giulio, lui lo fa davvero. No, ma io ho anche assaggiato la carne. E questo è vero. Effettivamente, inquietante, ma vero. Mm. E ti è piaciuta? All'epoca sì. No, grazie. Vuoi tutto ciccio buffo? E dimmi, perché hai smesso? Perché... beh, con la compagnia con cui di solito viaggio non era esattamente la cosa vista meglio. E ho perso anche un apparato masticatore adatto. Più adatto. Avete presente? Quello che avete voi, lunghe zanne... apparato masticatore? Tanto chissà se sanno cosa vogliono dire. No, è proprio per quello dico, cioè, wow, diranno, questo è un genio. Pippo continua un po'. Ma non fai io. Ci sta bene per un lupo. Continua ad essere dubbioso, dice. Pippo Mannaro, bellissimo. Secondo me ha avuto una brutta malattia, non dovremmo mangiarlo. Gnarl invece lo zittisce subito. Zitto coglione, ci sta prendendo per il culo. E tira l'iniziativa. È vero. Stai guardando questo, che cazzo. Mostra le merda. People. Quanto lui? 8. Questo è People. People. Si chiama così il personaggio. Era House of... no, come si chiama? Anzi, nome. Wizard, no. Come si chiama questo? Mica. E dove? Ah, 90. 9, Atlas. È il protagonista della serie X Mickey. X Mike, esatto. X Mike, scusa. No, Mickey. Vabbè, quello lì. Ok. Ovviamente è un'altra cosa rispetto a P. Lo deve specificare perché il disegno è esattamente lo stesso, ma. Allora, che le paragonate, scusa. Inizia Gnarl e parte alla carica. Useremo fare un vaccino ben fatto per l'Ebola. Cioè io lavoravo con un virus simile all'Ebola. Ma no, questo è più simile alla SARS delle due, no? Sì. E quello su cui lavoravo io era più simile all'Ebola. Ops. Beh, tanto è in comunicazione, non è. Aspetta, lui non ricordo spirito. Ok. Allora. Lui ti azzanna, cioè ti assale provando a sbranarti e lacerarti con i suoi artigli. Classe armatura? 18. Ti colpisce con gli artigli. Ti fa sapere. Chi è che li paragonava? Ma c'è l'articolo Spadanzani, useremo le tecnologie già usate per l'Ebola. Ah. Vabbè. Allora anche quelle per la Kaibu a sto punto. Cioè, nel senso. Va bene. Sì. Allora vale tutto. Sì, mi intendevano i microscopi e i tavoli. La luce, l'elettricità, lo stesso. Anche Kirill ti assale e prova a prenderti in lotta. Sei mai morto? No. Tu con i tuoi vari personaggi. A me hanno sempre la volta buona. Io credo di aver capito per esperienza mia, ma così, perché, che quando uno rimane 15. Da solo è più facile che possa morire. Ma lui fa una prova di forza ancora migliore e ti placca. Sì. Ok, mentre l'altro ti prende dietro. Cosa stai ti combinando? Ti ci posso lasciare solo un secondo? Stai facendo? Sono da solo contro tre lupi mannari. Cioè. Tocca a te. Tu vai a impiegare. Ci torna Giulio Mannaro. Sono abituato alle sue metamorfosi. Sarà lì. Sono le ali, le branche, sì, con la testa di lupo. Sì, è vero. Stavolta non... si viene fuori il lupo mannaro, viene qualcosa che è un po' più coerente. Non so se cosa stai per fare. Se liberarmi da Kirill e cercare di uccidere Kirill. Kirill tanto risuscita. Ragazzi, cosa stai facendo? Stai facendo il vaccino lì in cucina. Gnarla, drogando. Oppure come cioè alla fine lui non mi ha attaccato anche se lotta per evitare che scappasse. Secondo me si sta drogando. Vabbè, allora vabbè, dai, tutto per tutto. Attacco. Sta per morire. Tanto grappled sono solo zero morti. Hanno grapplato. Ma tanto ci sarà la cinematica in cui si entrano i casi, Mire li fa fuori. E a terra è probabilmente morente. Scusa lo spoiler eventuale, però. E attacco. Tizio. Vabbè, se no l'alternativa era uno spettacolare morte di Giulio, ma so che non la farai mai. Perché? Potresti essere il primo master a uccidere Giulio. Con 14 lo becco. Sì, con 14 lo becchi. E con l'altro faccio critico, perché vado 19. E le tue armi sono? Io ho la spada corta d'argento. Bravo. Ma tu hai detto prendo l'arco prima. L'arco d'argento corto d'argento. Ma io c'ho la spada della casa. Esatto. No, non ho scordato. Ah, l'unico che ha la spada d'argento. Se no Straddi avrebbe preso anche quella. Boh, non si era ricordato. Forse gliel'ha lasciata apposta. Perché gli vuole bene. Sono amicone. Salam, a te funziona l'app di LOL? Aspetta, guarda, fa un D6. No, non l'ho mai installato. Io non vi vedo su Legends of Runeterra. Sono 20 danni. Tu mi vedi? Io vedo solo Katasbrugo, il tuo fratello. 20 che... danni. Sì, 20 danni e con la bonus mi recupero. Ah, no, faccio. Ah, no. Katasbrugo sei te? No. Ah, mio fratello. Allora, no. Katasbrugo. Io vedo Katasbrugol. Tu vedo mio fratello. Prima mi ricatta, come ti chiami? Io adesso sono ritornato lì sopra. È il mio nick Cattarion. Però secondo me mi chiamavo Cattuno. Io non vedo né Cattuno né Cattarion. Ciao, ma scrivetemi il vostro robo. Salla 90. Sito cool. Beh, poi faccio Action Surge. Hai visto che ha cambiato nome io? No. Altro critico. Non so più che e l'altro è 26. Cosa sei? Sono Arcio, scritto con Cio. Arcio 90. Cazzo, urca. Questa volta schifo. Se avevi il mio e ti lavi tutto. 4. 14 danni. Hai fatto 4-1. No, sembra quasi 1, una 1, specie 2. Di. Ah. Scritta che sembra quasi tipo, non so, sì, un Aldei dell'Argon. E poi. Basta. Cioè, anche io ho la bonus, però, probabilmente. Cioè, hai fatto l'attacco. Non ho fatto il terzo. Perché non posso fare l'altra spada. Sì. Cioè, ho in mano la spada per difendermi, ma non la uso perché più. Ti dà il bonus alla classe armatura. Però posso fare cosa? Action Surge. Cioè, no, Second Wind per Second recuperare Wind per recuperare punti vita. E lo faccio. E ne recupero 15 punti ferita. A quanto sei? Sono a 80 su 82. È il turno di Pippo che è un po' titubante. Tip-wolf. Tip-wolf. Sono due personaggi distinti. Oh, vabbè, comunque buon per loro. Cioè, se funziona mischiare virus e danni. Allora. Ti morde? Dai, Pippo di merda. Cioè. E Pippo non lo sa. Allora, sono 7 danni. E mi fa un tiro a salvezza sulla costituzione. Dai che divento licantro. Quanto hai fatto? 10. Ok. E poi ti fa 6 danni con gli artigli. Si sapeva con entrambi. Ma è tutto pippo di merda. Esatto. Gnarl è molto incazzato per i danni che gli hai fatto. E... ma io l'ho fatti a capo. Ah, capo. Dicevo io, un po' di vitamina C. No, ok. Shaker. Allora, quindi sono... ma comunque Gnarl è incazzato uguale, quindi... No, l'ho molto incazzato per i danni che hai fatto. È incazzato il capo adesso. Quindi sono... ah, ma è quello di... dov'è che era successo? A Taiwan, non mi ricordo. Di Bangkok. Sì, no, sì. Non so, però sì, sarà in Thailandia da qualche parte. Sì, sì, no, avevo letto. Ok. Avevo capito male. Bene, quindi adesso sta proprio a Gnarl, dicevamo. È incazzato che... per i danni che ha fatto al capo. Esatto. E anche lui vuole un assaggino di questo bel bocconcino. 18, come sempre, ti colpisce con entrambi anche lui. Che culo. Pigliata, sono 7 danni. Quanta vita hai, scusami? 60. Morso sono... sono 10 danni di morso. Ma stai io? 50. Se gli mangiano le gambe. Mi hanno attaccato solo in due. Lo stanno sbramando vivo. Gli piacciono queste cose, no? No, beh, se, se lo toglie, se lo beccate che è ancora vivo, io starei volando comunque. Sì, sì. Sento di urla di uno che sta venendo scoiato, me ne accorgo. Certo. E mollo. Sfortuna. Che arriva giù. Sì, ma l'elfo ti ha parlato di me. Non di giù. Vabbè, però io sono là, sento delle urla di giù che fa. Stai cercando noi. Dita, che sono sordo. No, Giulio, passo dopo. E... ah beh, poi c'è Kirill. Giulio, senti il rumore dei motori se passo di lì. Merda. Critico. Il morso sì. Sì. Dà una bella assaggiata al tuo collo. Sì, tra l'altro. E, quindi sono 8 danni di Mezzo, morso. Perché non ti proponi per farti iniettare il virus e farti studiare per fare una cura? Magari l'ho già fatto. E 7 di... artiglio. Vai, tocca a te. Non può firmare un consenso informato. Magari se avessero un vaccino. Sette di artiglio. Stiamo per riuscire. Così vedono se uno che ha già tipo un po' di problemi respiratori si aggrava o no. Se muore, così vediamo se muore. Cioè. Abbiamo già visto tre cadaveri questa cosa. No, in Italia non ancora. No, appunto, per questo Vez è il primo caso. 16 e 18. Che bello, Vez qui essere il primo morto per coronavirus in Italia. Chi può dirlo? 15. Spero per voi di no. Spera per noi di no. No, nel senso che se no lo beccate io. No, se tu ti offri volontario fatti iniettare e poi ti chiudono in un barile, non è che... In un barile? Che porf. Che lui ti dà una bella pigliata sulla testa. Gli iniettano così. Cazzo di film. 13 danni di artigliata. Cazzo. E ti manca col morso. Mi fa 13 danni di artigliata. Perché gli hanno dato questo nome? E... Gnarl. Il nome fa cagare. Si chiama che vado giù. Nuovo coronavirus. Gnarl ti manca con entrambi. Ma perché coronavirus? Perché ha una... Kirill. Sì, okay. Sì, hai sentito che in America birra, prende col morso. Hai sentito che in America sono scesi i consumi della birra Corona? Sono 4 danni. Sono degli imbecilli che hanno dovuto specificare. Vabbè, se per questo in Italia tipo il 50% dei cinesi sono in perdita. Bene, però diciamo così, per quanto siano entrambe cose ignoranti, a livello logico mi fa più ridere il non prendere la birra Corona. È l'unica cosa che posso fare, continuare ad attaccare. Veramente sì. Comunque non ho visto nessuno con mascherina. No, infatti sono finite dappertutto. Cioè, ma in realtà non so usa, se posso fare lo switch e usare anche il terzo attacco. Tra l'altro, no, mascherine attacchi... chissà prodotte dove. Scegli la, qual è la primaria, scegli qual è la secondaria. Quindi ne fai due con una con l'altra. No. Ma visto che cosa, il nome del interagire con gli oggetti gratuito. Okay. In teoria. No, mentre, cioè sì, puoi sguainarle, però... lo stile di combattimento suppone che ce li abbia contemporaneamente. Hai capito? Magari cioè me la passo tipo cinematic, come neanche vado esatto. No, non me, lo, non me la lasci, vabbè. Non si può fare, sarebbe figo. Con l'azione gratuita si lancia 17-20. Colpito. Scusa, ma l'interazione con un oggetto non è un'azione gratuita? Sì, Sì, ma che 17 danni. 17. In realtà sarebbe da approfondire, okay, secondo me. Questo eri tu. Adesso sta a freddo. Pip Wolf. Ma si chiama Pip Wolf? Sì, è canon. È canon. Come quello di Mikey X. Esatto, è proprio lui. È lui. Pip Wolf ti manca. Cioè, ho una botta di culo. Comunque, ragazzi, adesso... per colpa del Papa sta roba qua. Ah, è vero. Cosa ha fatto? Ha dato uno schiaffo alla cinese, l'ira di Dio. A proposito di ira di Dio, mi stai piegando il manuale. Senti un battito d'ali provenire da sopra di te. Okay. È fortuna che è stato lanciato da 15 km di altezza. Sta planando verso di te. All'improvviso si accende una luce nella nebbia che vi sovrasta. Allontanarsi. Squadra alfa, squadra alfa, l'abbiamo trovato. Stai comunque a gnarlo. Iniziativa. Non sei tu. Lo so. Diciamo, tira l'iniziativa questo qua. Sì, l'ha tirato. Dal cielo cala. È l'angelo stronzo. Cala questa figura che brandisce una spada di luce. Faccia, oh, la mia faccia! appena lo vedo. La mia faccia! Dobbiamo arrivare noi, Marco. Stuprare questo angelo di luce. Lui cala dalle tenebre. Mi finisce. La luce. No. Sì, la tua faccia. Ok, senti la musica del paradiso che purtroppo abbiamo scoperto essere di Cremonini. Scende così. Andrea, vale andare a mezz'ora. Bellissimo. E meno due fendenti a gnarlo. Lui di patapim e patapam. Patapim e patapam. L'ordine è ristabilito. Jarl si gira mezzo sorpreso da quello che vede e probabilmente anche non capendolo e lo assalta mancandolo. Kirill invece capisce benissimo, ti lascia andare, disingaggia e corre verso la foresta. E questo era Kirill. Tocca a te. Io lo raggiungo Kirill. Tu lo raggiungi Kirill. Non sei più grappolato. Con un'azione di movimento. Attraversi usciresti dall'area di Gnarle e di Pip Wolf. E prendere l'attacco che pure. Sì. Posso chiederti quanta vita manca a Kirill? per vedere se faccio la cazzata o no. Quanta vita hai? Te lo dico io, è una cazzata. Quanta vita hai? Io 22. Sì, è una cazzata. Non so che è una cazzata. Però se mi manca poco lo faccio. Guarda. Ma manca pochino anche a te. Se ti fanno due bei colpi. Un sindocato che fa 3-20 su 4 danni di tiro. Deciderò con i danni. Va bene. Mi sembra la cosa più saggia. Test di volontà facciamo. Ti fai un test di volontà. No, di sopra o sotto tiri un dado. Si cade sul tanto tavolo. Volontà più zero. Quindi sul tavolo. Volontà più zero. Anche se avrei detto avessi attaccato. Quello che ha la mia faccia. In questo momento sono. Hai ragione, sei imprevedibile. Quindi. Sono incazzato anche con chi mi attacca e ho appena attaccato. Cosa i risultati cosa diranno? Se faccio sopra il 10, attacco chi? 16, attacco chi? Vengo due attacchi di volontà. Allora. Steso. Ma perché solo muore? Sì. Ma le menomazioni tu le fai tirare qua? Non lo so. Ho paura che mi rallentino. Improvvisamente adesso non l'abbiamo mai fatto. No, chiedevo una domanda perché nella campagna dell'altra cosa l'armata dei morti di 20. ho paura che rallentino un po' troppo, più di quanto non stia già rallenti mancano. No, dai, hai tirato 20 fino adesso. Adesso hai tirato degli 1. Arrivo a chi? Voglio sempre io, scusa. Per una volta che muore 18 qualcuno, 24. Tanto la sua anima rimane qui, possiamo rivocarla. 19. Cioè, sei ancora in tempo, prendi la tua lancia e uccidi. Non ho più la lancia, 19. Che simpaticone, ce l'ha strad la mia lancia. Beh, ti devi prestare l'ascia di lei, l'ascia da falegname. Ce l'ha strad, anche quella. Ti fai prestare il simbolo divino di Vezzi? Il simbolo sacro, la testa della bambolina, qualcosa. Gli ficchi la spada nel cuore. E lui la lancia un ululato. Gli strappo il cuore e io lo mangio. Se muore. Ok. Niente, prossimo. Coronavirus, tia. Tutto bene. Che cazzo. Costituzione. No, ma intanto ho già la licantropia probabilmente, perché prima ho fallito di costituzione, non sai. Non sei vaccinato. No, no, no. Infatti richiamo a livello 10. No. A livello 10. C'è a livello 8. Pitwolf grida no, Kirill, e ti assalta. Cazzo, io ho massacrato il capo e mi assalta. Oh, tu sarà l'hai fatto e ti trova l'inte contro i meningococco. Ti prende con entrambi il morso e gli artigli. No. Pensavo che si spaventasse nel momento in cui mi ha sentito. 9 danni di artigli. Non hai il fascicolo. 13. 9 danni di morso. Fammi un tiro salvezza sulla. Beh, ma l'ho fatto prima. Se diventi licantropo, guadagni di DF. Morso lo fai. Ma non l'ho fallito prima. No, lo sai. Ma se. Fatto tipo 10. Vabbè. Se diventi licantropo, guadagni dei PF temporanei che magari. Scorreggiato. No, l'avevo 11. Scorreggiata. sì, qualche ora. Mentre sceglievo il cinese, ho detto dai la cipolla verde che scorreggia già lui, non voglio. Se me lo stanno puzzando, questo nessuno si lamenta. Ilia, cos'è che fa? Questo. Anche ieri non ci abbiamo scorreggiato, nessuno ha detto niente. Dai, che c'era quella tasa dei nachos di Vex che c'è. Quindi sempre i nachos che fanno una puzza. No, profumano, è un buon odore, però. Profumo fortino. Colpisce Gnarl con uno dei suoi attacchi della sua spada. Oh, the Taz. Di luce. Ha preso il cappuccino anche al cinema, Ian. Tazza grande. Sono andato a vedere il 1917, bello, mi è piaciuto. Stavo. A Vezzo non è piaciuto. No, mi è piaciuto. Ti è piaciuto. Capolavoro. Capolavoro non so. Gnarl assalta Kirill. Gnarl assalta Kirill. Ah no, te l'ha piaciuto più Dunkirk. No, vabbè, sì. Gnarl assalta Iliad. Lo manca. Ah, ok. Tocca a te. C'è gente che... Vabbè. Cioè, ha cominciato a combattere fra di loro. Posso provare a fare brutto? Mi dai vantaggio? Cosa ha detto? A fare brutto al mamma. Cosa a fare brutto? Cosa vuol dire fare brutto? Dai, non fare il vecchio anche tu, però. Dai, che ci seguono. Me lo concedi il vantaggio. Bravo, bravo. Aumentiamo i follower giovani. Bravo. Avendo tu ucciso il tuo capo, devo anche fare sul carisma? O posso fare. Dipende da tutto da come mi descrivi quello che fai. Ah, niente, strappo il cuore di Kirill e me lo mangio, io lo mangio in faccia. Quello è un modo di dire strano, però non è italiano. Non è fai tare, è fare brutto, strano uguale, però è italiano. È slang, però è italiano. Allora, fai tare è anche startare slang, ma è italiano. Sicuro non è. Non so, proverei a farglielo con una forza. Sì, o forza o costituzione. Non è inglese, lo scegli tu. Puoi provare a strappare il cuore con la forza. Assurdo. Quindi faccio una prova di athletics per strappare il cuore. Ok, una prova di intimidire con la forza per strappare il cuore, per intimidire. Senza vantaggio, non vantaggio. Beh, se gli strappa il cuore potrebbe essere un con po' intimidito. Vantaggio. Sì, è quello che vuole provare a fare. Ma anche un po' forse. No, sì, dai. No, quello che avevo ucciso prima. 22. Strappa il cuore. Oh. Muore, quindi non è intimidito. Si impaurisce. Cazzo. Già che mi aveva creduto a tutto quello che avevo detto fino adesso. Che male. Ed è. In realtà poi non guarda incredulo mentre assiste a questo spettacolo. Il dolore deve essere una roba. Che vabbè, per lui non è tanto lo spettacolo cruento quanto il fatto che per questa prova di forza nei confronti di quello che era il suo capobranco, quindi. Idealmente più forte. Fatto brutto. L'ho fatto bruttissimo. Hai una story su Instagram. Viene intimidito. Ah, sì, l'ho visto. E... non è che l'ha visto, era giusto. No. I nuovi limiti. E poi niente. Lui quindi disingaggia e si allontana da te. Guardingo è impaurito. Poi tocca a Gnarla, che continua a picchiare Ilia. Questa volta lo prende. Spero che gli faccia abbastanza danni e poi lo finisca. Non succederà perché l'altro è al 100, non sono quanti. Ma poi non subisce solo danni magici, tipo. No, di mezza. Vi ricordavate che aveva la resistenza. Però non so se sono danni magici quelli dei mannari. No. No. Che sa se è intervenuto perché vuole uccidermi, solo lui può uccidermi. Esatto. E Gnarla non c'è più. Cioè potrei scappare. Potrei scappare, ma il mio personaggio non lo farebbe. Cioè. Allora, colpisce prendere... con entrambi. Anche se ho 4 di vita. Potresti prendere Casimir. Potrei prendere la testa di Casimir. Se fai in tempo la testa. Beh, magari non è morto. Tutta risposta, Ilia trapassa con due volte con la sua spada di luce il povero Gnarla, riducendolo a brandelli. E Atanas. Noi state combattendo insieme. No, vabbè, non importa, alza il volume, se mi prego. No, io sono parecchio ferito perché ho 4 punti ferita, totalmente sporco di sangue, molto mio, ma molto ma parecchio non mio. Stai masticando il cuore e sto masticando un pezzo tra l'altro il cuore che è tutto muscolo, esatto. Quindi non andrà giù mai, sta ancora battendo, è tipo un chewing gum. Che schifo. Sputo un pezzettino con tutto il sangue che va. Tu hai la mia faccia. Ok. E barcollo un po' in avanti. Spacco. Però, cioè, non ho intenzione di attaccarlo perché so che... Cioè, questi non ha niente da fare. E... Lui ti guarda con la sua faccia. La sua faccia. La mia faccia. La sua faccia. E gli occhi tipo... bianchi di luce, fai conto alla dottor Manhattan, però non un mega puffo, ma giallo. Come sprecare. No, cioè è bello, però quante ore ci hanno messo. Ah. Comincia a camminare lentamente verso di te. Pensi 10 giorni fanno ospedale. Pip Wolf si è dato alla macchia. Siete voi due il corpo di Casimir. Ho affrontato 3 più mannari da solo. Quasi. Più un angelo che per. Cammina guardandoti. Casimir? No. Scusa. Ilia. Cioè, sta venendo verso di me. Si ferma. L'angelo questo. 2 metri. Da te. Ok. Ciao, angelo. E io faccio. Per andare verso. Casimir. Fai brutto anche a lui, dai. Ma questo è lo spin-off della puntata di Giulio. Esatto. Quando nelle serie c'è la puntata dedicata. Se ho ancora il cuore in mano io lo lancio. Non lo raccoglie. Cioè se lo fa cadere. Sì, non sembra particolarmente impressionato. Che non sembra avere particolari reazioni. Alzo un sopracciglio. Cosa cazzo faccio? Ma quindi dietro... c'ha le seghe lì dal mano? Dei grano sponi. Adesso aspetta che passo da voi. Di fianco al corpo di Casimir arriva una figura femminile che lo tira su. Quasi di seghe. E Giulio che fa. Ma quella è sfortuna, con un uccello gigante. Merda, oh. Attacco Irina. È svolta Irina. Bene, stacco di scena. Torniamo al. Suona nana che fuma. Torniamo al trio. Esatto, prima dello stacco, indico con la spada la mia preda. Ok. Indicando. Ravanata in diretta. Sposta da destra a sinistra e si risiede. Vai. Bene, il trio dell'Ave Maria. Ci eravamo lasciati che... Che ci aveva chiesto chi, a chi era. E lui non ha saputo rispondere. Cioè, nel senso che non me lo vuol dire... No, lo sa. Windows XP cioè, se lo richiede e poi te lo chiede. Chi sono io? E tu chi sei? Anzi, no, è Vista. È Windows Vista. Quindi la supercazzola era prevista in questa ambientazione. Sì. E... io ho già giocato, quindi sì, se può rispondere a qualsiasi uno di voi tre. No, io non ci sono. Alla domanda di voi tre. Alla domanda chi è? Mm-hmm. Lui si è chiesto, cioè io gli ho chiesto chi sei e lui chi sono? Boh, chi sono? Io ho visto che smaltare non posso farlo. Il lupo però è ancora lì, l'altro. Sono scappati quelli che sono sopravvissuti, quindi il lupo che è sopravvissuto, quindi siamo fuori. Sì, non è combattimento, questo qua che non sa chi è. Non è... L'importante è che siamo dalla stessa parte, contro il malvagio Conte Strad. Conte Strad. Di queste terre. Non serve colui che ci tiene tutti soggiogati nella sua maledizione. Forse gli fai un disegno, capisci? Non abbiamo nulla contro di te. Anzi, ti aiuteremo se possiamo. Se sei contro il maligno, tiro un persuasion. E sto giro comunque è un 24. Sembra rassicurato dai tuoi modi gentili e dalle tue calme parole. E disperati. E disperati. Sembra stordito dal tuo latinorum. Vi guarda, vi squadra un pochino e vi dice: voi non sembrate svargiasti come... come pendenti di viola di con scappellamento a destra di armature no. E due parole vice sindaco la vedi che stuzzica con scappellamento a destra e quindi c'è queste parole a caso sì. Completamente. C'è un trattamento di afasol da due ore. Allora, posso dire? È proprio così. Prima che per sbaglio dica un incantesimo che ci uccide tutti, possiamo tipo stenderlo. Sì, cioè, quantomeno farlo svenire un attimo. Cioè, non vorrei che per sbaglio questo dice un altro fulmine e siamo morti. E come cioè. Sta cercando di mediare? È proprio così. Ma... ah, bene, bene. Ma capiamo che capiamo tantissimo, che per errore siamo probabilmente giunti nel tuo territorio. Non era nostra intenzione invaderlo. Stavamo non usare cercando... parole difficili. Beh, no, ne usa più difficili. Stavamo ma cercando di fuggire dai malvagi lupi. Lupi. Dove? No, ma tutti. Gli abissi. Lo dici davvero? Cioè lo stai paranoiando. Ci farebbe comodo il tuo aiuto per uscire da aiuto, questa foresta. Aiuto, la foresta. Potresti anche venire con noi. Non capisco se Kat è confuso o se Kat sta personificando un personaggio. Se lo desideri. Grazie, è un complimento. Se lo desideri. Io sono Varvistran. Varvistran. Piacere. Piacere. Io sono... Un eroe. No. Così come un eroe della foresta. Che combatte contro il malvagio Strad. È brutta la foresta. Andiamo via. Sì, mostraci la via. E comincia. Non sa neanche come si chiama. Si chiama lui. Ma penso che lui si fida dei primi. Venga, vediamo dove va. Se va verso Kretsky, magari lo seguiamo. Se no, ciccia, andiamo dall'altra parte. Ha detto svargiasti. Esatto, era la parola d'ordine. E dice: no, foresta brutta, foresta pericolosa. Io potrei tirare, scusami, sì. Perdonami, un. Sì. Faccio schifo, però tipo un'arcana credo sia per capire che cosa può essere. Lui ha dei simboli addosso qualcosa. Posso fare un una tonica nera? Dei simboli però no, ma dei simboli. No, fammi fare un religion effettivamente, che ci sta. Va bene. Anche se probabilmente non. Io faccio un 17 per come visivamente. Allora, il religion è un 20. Mm-hmm. Non noti i simboli religiosi. Mm-hmm. La sua tunica è abbastanza spoglia e molto rovinata. D'ascera. Come insomma di una persona che ha passato molto tempo comunque mesi. Se mi fossi trasformato in una lumaca sarei già arrivata e che non sai dove andare. Potrebbe anche essere solo magari ci hai superato. Sì, beh. Hai anche visto il fulmine che cadeva nella foresta, tra le altre cose. Voi che osservate la sua tunica, notate una fibbia. Una fibbia che... Dolce Gabbana. Può... Me la puoi descrivere? Raffigura una... una torre molto alta, molto longilinea, e sono quei tipici simboli che si trovano addosso ai maghi. Ah, potrebbe essere quello della... come si chiamava? Mm. Chi lo sa? No, io lo so. Quello della? Lo so. Una torre. Della torre? Sì, lo so. Tu invece i simboli non butti a mare. Quello della torre è vissuto centinaia d'anni fa. Però non è mai il simboletto, signor. Non è detto. Allora, no, però c'era un altro mago che era entrato per sfidare Strad. Peccato che tu non sia lì, vero? Che ironia. Vado da solo nella foresta e mi cacciano i guai. Cioè, vi ricordavo che c'era... Ho un'idea, portiamolo ad Atanas, secondo me sa qualcosa. Sì, al massimo delle due lui, fa? Se vuole. Se lui si incammina e va verso le montagne. Quindi ecco, dalla bravo, parte... Ciao. Posta rispetto a quella che state andando voi. Fermo, dove stai andando? In un posto sicuro. In un posto sicuro tipo un tempio? Posto sicuro. Mm. Vieni con noi. No, è pericoloso. Allora ciao. Ciao. vabbè, cosa devo fare? Cioè, un dialogo tra i Nobel. Vabbè, che oddio, però cioè lui ci ha anche un po' salvato il culo. Ma veramente mi ha tirato un fulmine in testa! Cioè, che cosa intendi tu per salvare? È vero che siamo abituati a compagni, però... cioè, da un lato ci ha salvato il culo, dall'altro... In questa campagna non è ancora mai successo. Dall'altro... Era un cervo su un albero che ci ha tirato un fulmine in testa. Ora, tu come puoi esserti già affezionato? No, non è che mi sono affezionato. È la persona che l'ha trattato meglio dall'inizio della gli ha fatto la super cazzo! In realtà sì. No, ci sta di andare via, solo che siamo messi di merda. Mentre lui magari via. Comunque ci... Beh, non gli sembra messo tanto bene. Beh, mentalmente. Però. Beh, anche addosso è la testa. Ma boh, dai, andiamo verso Kretzky, sennò... Cioè, secondo me... Cioè, delle due possiamo provare a cominciare a venire con noi. Quello no. Beh, non ti sembra proprio una persona ragionevole. No, andiamo. Vabbè, possiamo anche dargli un colpo in testa, legarlo e portarlo con noi. Io mi faccio. Allora, per lui, gli smite non li posso fare e gli incantesimi in generale non li posso fare. Non puoi fare quelli che richiedono un focus. Il mio focus per gli incantesimi è il. Sì. Quindi qualunque incantesimo prevede il focus. Scusa, ma perché non lo portiamo con noi? Se c'è la F. Come faccio a stabilire un incantesimo di primo livello? Dice che il mio focus è quello. Beh, a prescindere, però le Ion Hands lo posso fare, sì, direi. Sì. Quindi io mi sparo. No, aspetta, come siete messi voi? Aspetta, prima voglio finire il discorso. Non possiamo portarlo con noi. Stai sparando tu? Io cosa dicendo? Lui deve portarlo con noi. Cioè, lui è andato, numero uno. Se vuoi lo possiamo inseguire e cercare di combattere. No. Tuttavia, non mi sembra una grande idea. Visto che lui ci spara delle bombe addosso e vola, e noi siamo dei coglioni con 10 di vita a testa. Tu sei un vai allora, precedici. Ormai si fida di noi. Voglio dire allo stregone che se vuole può seguirci. E dillo. Non è pericoloso, dobbiamo solo trovare i nostri compagni. Persuadilo. Sì. Non puoi fargli un trucchetto, una roba per aiutarti a convincerlo? Cazzo, vuol dire? Posso farlo, 30. Ma non lo farò. 23. Però. Mm-hmm. Gli dice delle parole a caso. Non credo di avere uno così forte con noi. Sì. Però cioè, la prova di convincere è praticamente tu parla che dici rimbalti gravoso. Ti risponde: "Ah sì, temo poca Ramord per tuo Aror come se fosse perché finisco sempre lì, non lo so fare. Cildrenio come la Vater capito, no? Sì. Le parole al contrario hanno un significato che non riesco a quindi andiamo e mi volto verso Kretzky e vado. Arrivederci. E va verso le montagne a nord. Bene. Sì, provare a sciarmarlo, ma avrà 200 milioni di tiro salvezza. Sì, sì, eviterei di indicarmelo. Irene esamina il corpo di Kevin. Dice: è ferito, ma è ancora vivo. Ancora per poco. Spiace, Giulio. Cosa ci fai qui, Athanas? Cercavo la merda dell'elfo lì. Così. E l'hai trovato. Ci ha lasciato in una bella situazione. L'ultimo pezzo. Più che altro, tu cosa ci fai qui? No, no. Siamo dovuti sfuggire dalla torre. E perché la mia faccia è con te? È venuto nella notte. È venuto. Ah! Non siete malizioni. È venuto nella notte. È venuto nella notte. Era perduto e disperato. Allora avevo ragione. L'avevo visto arrivare andare verso la torre. È entrato. L'ho visto ed ero pronto al peggio. E quando è entrato, però, qualcosa in lui è cambiato. E l'ho visto disperarsi e piangere per quello che è diventato. Mi ha parlato alla faccia di Giulio, effettivamente. Mi ha parlato. Ma la mia faccia. Non è stata una sua scelta. Non lui c'entra, è colpevole comunque. Lui è una vittima come tutti noi. E ora vittime carnefici. Non usiamo parole di cui potremmo pentirci. Mi ha raccontato che le sono state fatte cose orribili e che non era più padrone del suo corpo. La notte che è arrivato mi ha raccontato che è stato tradito e che ha perso tutto quello che gli era di più caro. Una volta che è entrato nella torre, in qualche modo si è liberato dal gioco che lo... Che l'hai ucciso tu comunque, cioè... L'ho anche riportato in vita, per quella è la mia faccia. No, certo, però... Visto che lui è colpevole, però l'hai ucciso... Cioè, vabbè, comunque... Mi sembra che siamo pari. Mi sembra. Sì. Chiedi io. È giusto avere opinioni anche degli altri. Mi ha detto io. Mi ha detto che si è liberato dal gioco che lo premeva. È la mia faccia. Cosa scusa? Mi ha detto che... Come potrebbe essere diversamente? La puntata di Coloni. E tu nell'immagine ci sono io. Sì, io. Esatto. Sì. Ricorsi esatto, storici. Leitmotiv delle nostre avventure. Vero. Mi ha raccontato che prima era imprigionato, la sua prigione era dentro quel corpo. Adesso finalmente è libero. Quale corpo? Il corpo del cinnetto. E intanto sono arrivato a Mordor. Il corpo dell'angelo. Era la sua prigione. Tu sei arrivato a Mordor. Butto sfortuna nel Montefatto. Arrivano le acque. È stato torturato, gli sono state fatte cose orribili contro la sua volontà. Oh, a chi non è capitato? Purtroppo è vero. È una cosa molto comune in queste terre. Dai, minimo nono settembre che ti riprendi. È vero, la prossima sarà il nostro diplomatico. È l'unico che parla il tedesco. Il germano. Penso io, ragazzi. Siamo i maniforti. Quello sicuro. Purtroppo subito dopo il suo arrivo abbiamo visto che la torre era circondata e quindi siamo fuggiti. Sareste potuti rimanere lì dentro, non credo che sarebbero potuti entrare. Ci avevano già provato e ci erano quasi riusciti. Per fortuna sono riuscita a far collassare l'impalcatura per impedirgli di salire, ma questo non gli avrebbe impedito a lungo o di entrare o peggio rischiava di chiamare qualcun altro che avrebbe potuto facilmente. Io dovrei consegnarlo a Strano. Dopo che hai pronunciato queste parole, Ilia si frappone tra te e lei. Dovrei. No, sto parlando con Irina. Qualsiasi patto che può essere stretta con quella creatura porterà solo rovina per chi lo contrae. Non mi interessa, a me ci diverte portare rovina su di me e su tutti quelli che stanno dandosi tiro due mazze sulle palle, le mutandone bianche. C'è gente che mi porta un po' di rovina. Comunque fai, lasciami prendere la mia preda. Fai come desideri del tuo destino, ma di quest'altro malcapitato me ne occuperò io. E dice, fa un cenno a Ilia. Devo riportarlo dagli altri, sono ancora, per quello che ne so, bloccati e lui ci serve. Lei indica lui a Ilia e poi si rivolge di nuovo verso di te. E dovrei trovare un altro metodo, temo. Stai, ci serve. Potresti aver consegnato i miei amici alla morte. In base a che cosa lo dici? Perché eravamo contro. Sì. Scrivi dove? Perché dove stavamo. Dovevamo passare il ponte e Strad voleva un pedaggio. Allora, se era la volontà di Strada di volerli morti, sì. I tuoi amici sono già andati. 17. Altrimenti, probabilmente il gatto vuole ancora giocare con la sua preda. Non hai alcun diritto di portarmi via la mia preda. Lasciamo che decida. Non lo ucciderò ancora, ma mi deve delle risposte. L'angelo lo tocca, c'è cioè bling, una lucina e lui comincia a risvegliarsi. E dice, cosa è successo? Dove sono? E ti vede e dice, Athanas, cosa ci fai qua? Pensavo fossi sull'isola. Sì. E voi chi siete? E voi chi siete? Lo sa chi sono, se ne rende conto. Appena sono passato e sono venuto a cercarti. Ti ho trovato. Ho ucciso il capo dei mannari in parte con l'aiuto della mia faccia ed è comparsa anche Irina, che stavamo cercando a vuoto, e adesso lei ti vuole portare via mentre gli altri hanno bisogno di noi. Bene, decidi Casimir, dice Irina. Vuoi venire con noi o con Athanas? Risata. Diciamo se avessi voluto ucciderti l'avrei fatto subito. E Casimir dice, questo non mi invoglia particolarmente a venire con te. È quello, è che la verità. Beh, apprezzo la tua sincerità, ma penso che andrò con Irina. Ci rivedremo quando sarete pronti per salire al tempio. Salire di livello. Forse salire di livelli. Occhiolino, occhiolino. La prossima volta potrebbe non essere piacevole come questa. Beh, questa è stata piacevole. Più di punto. La minaccia. Va bene. La tua preda ha deciso. Speriamo di non farsi cacciare. Che ironia. Speriamo di solo portarlo da voi. Speriamo di rincontrarci quando avrai deciso che le altre persone non sono delle prede. Gazzella, vuoi venire? Lui non era una preda, finché non deciso di scappare da questo leone affamato. Lui è scappato a gambe levate, lasciandoci sull'isola nella merce di Strand. La merceria. La merceria di Strand. Della merceria. Se fossi rimasto lì mi avrebbe ucciso. Lì per Strand. Ho lottato per la mia vita. Stavo parlando con te, cosa che non ho mai fatto prima. Tra l'altro. Cioè, no, non parlare con te, parlare con chi vuole uccidere. Ah, quindi questo è un segno di buona volontà. Esatto. In senso. Ah, okay. Un segno di buona volontà. E comunque bastava che tu chiamassi Vardistra, non ti avrei mai ucciso davanti a lui. Il personaggio di Giulio è un incompreso, in fondo. È vero. Non ho la forza per oppormi a quello che volete fare, quindi se volete andarvene andate. Ma me lo segno. Ci rivedremo allora. Stai attento, è pieno di lupi qui intorno. E fanno per allontanarsi. Rido e raccolgo il nella cuore. Foresta. Me morsicazzo nel capo. Va bene. E dai, qualche altro morso. Vabbè, mi siedo al centro del coso. Dall'alto vedi uno spiazzo formato da alberi rotti e al centro c'è un uomo ricoperto di sangue e due cadaveri di lupi mannari. Capisco che è lui. Fammi un perception con vantaggio perché sei in aquila. 17. Capisci che è lui. È lì, inerte, non se l'aspetta, è pronto. Cosa sta facendo lui? A che distanza siamo? Suppongo si stia riposando. Sono con seduto. Fortuna che prepara il paracadute e dice lanciami, lanciami. Siete a 40 piedi di altezza, immagino. Non siete troppo in alto, altrimenti non vedete niente per la via della nebbia. Tu stai avvicinando il raggio di tutto quello che vuoi, Marco. Sì, vabbè. Tu stai rapidamente avvicinandoti a Giulio, Marco. Lo vedi sempre più vicino. L'hai visto? 9,81 metri al secondo. 81. Vabbè, dai, mollo Marco. Che altezza? Sta abbastanza in alto, poi vado verso Giulio e lo riprendo. Però. Abbastanza. No, scherzo, non faccio questo numero. Lo vado giù, appoggio sfortuna e rimango aquila. Ok, siete a 30 piedi dal centro di questo cratere, chiamiamolo così. E... Ma come 30 piedi? Ti avvicino a lui. L'appoggi, hai detto? Sì, ma vicino a lui. Va bene, scendo vicino a lui. Scendi vicino a lui. Julius, ti rimango acqua, io non posso parlare. Però... Scusa, è amico tuo il nostro follower. Comunque. Non lo conosco. Sì, certo. È amico suo. Sì, lui è anche Giulio Bonzi. Appoggio sfortuna. Quindi vedo sfortuna. Guardo lui, è un'aquila gigante. Un'aquila muscolare. Ce l'hai. Diciamo così, ce l'hai fatta, sono contento. Sapevo che Strada non ti avrebbe ucciso. Cioè, sapevo. Ci contavo, diciamo. Ma così buona persona. Così, altri nomi, Giovanni. Sono bagnato. Cosa vuoi che ti dica? Ti ho detto di non seguirmi. È il nostro follower, questo è il problema. Ok, penso tu debba fare un tiro. Ma no. Per fare le cose, diciamo, un'iniziativa. Anch'io. Tirate iniziativa quando inizia il combattimento. Vai, dopo questo 17, 18. Io 6 più aquila. 6 più aquila. Ma ho dovuto chiudere il manuale perché tu piangi. 9. 9, anch'io. Ah, c'è anche un Giovanni Andreo che è sempre. Sfortuna. Però aspetta, 9 e devo tirare per fare vedere chi io te. Ti tira. Boom. 20 di dado, Marco. Anch'io. 20 di dado più 3, 23 con l'aquila. Testimone anche lui. Devi ritirare. Vai. 15. 15. 12 più 3, oh, e tira. 22. 17. Oh. Peccato, Marco. Allora, vedi sfortuna che comincia ad incantare parole arcane e abbastanza lugubre. Che scuola è? Illusione. Beh, ma se sta prima lui, lo fa e basta, no? No, sta prima, no, sta prima da te. Tecnicamente sono un lupo. Cosa? È vero, per essere Silent Image richiede concentrazione. Immagini, sì. Ma quando l'hai usato, scusa? Quando era sull'aquila. Quando lui l'ha preso. Vediamo. Non lo so, in teoria io vado spedito con l'aquila gigante, visto che si muove a 80. Allora, fino a 10 minuti. È volontario Silent Image. Ah, perché è una roba di Warlock. È a concentrazione. Quindi giù mi fa più serio rivederti, lupo. Sì, è vero, ti arriva un'aquila che porta un lupo. No, ok, a quel lupo. No, allora cambia un po' tutto. Vabbè, ma tirate sempre l'iniziativa, non cambia niente. Ah, li hai tirati, Marco? No, ho capito, ma... terrò questo. Cioè, nel senso, il lupo mi ha... Cioè, i giganti non è che... Cioè... No, nella serie prima ho parlato con Sfortuna perché avevo riconosciuto Sfortuna. Non riconosco Sfortuna, vedo un lupo. Se ti parla la voce di Sfortuna, immagino. Ma mi sì, parla. Ma lui è atterrato come lupo e fa: vedo che ti sei divertito. E tu capisci che è lui. Sì, perché non è trasformato in un lupo, ha fatto un'illusione per sembrare un lupo, quindi può parlare. Sì. Okay. Quindi poi vedi un lupo. Sì, tra l'altro, Marco, sfortunata questa cosa. Appena ha fatto combattuto con il lupo in mannare, arriva un lupo e ti sarebbe lanciato addosso. Sì, in effetti è vero. Tipo Arci che va, sì, tipo giusto, guarda, tipo, oddio, sono anche qua. Va! Cioè. Ok. Sì, quindi quando la comincia a lanciare Phantasmal Force, passi da un incantesimo all'altro, quindi torni te stesso e tu vedi che sta preparandosi a lanciare un incantesimo. Potrebbe essere anche una cura per qualcuno. Sì, certo, lo prendo in lotta. Ok. No, che cazzo tiro, devi tirare voi. Abituato che giustamente non si lotta fra PG, ma il D&D è un gioco 23. Quindi atletica contro acrobatica. Sì. 19. Vinto io. Ho più 5 in forza e più 3 di proficiency. Ho fatto 15. Ok, sei in lotta tra voi due alla fine. Ok, inizia. No, aspetta, prima. Vabbè, fammi. Ah, e tu hai un attacco. Hai ancora gli altri. Non ho voglia di combattere. È l'attacco più forte di Giulio. 29 da l'ignoro. Ma tipo una maschera di sangue, no? Sì. Sì. E non lo... sai se sono infetti. E lo... una maschera di lupo. E lo... E poco spinta. Anche lui una maschera di lupo. E lo rilascio. Oh, dimostrazione di forza. Ok. Ti ha appena umiliato. Di nuovo. Non so. C'è anche questa cosa, Marco, ti prende benzina sul fuoco. Però prima sta Sfortuna. Beh, Marco dirà tipo qua non... peccato che non ci sia un lago qua. Cosa? Eldritch Blast. Beh, devi buttare. Marco, prima che entro stanotte, prima di fare un altro volo con la Germania. Posso cambiare incantesimo? Praticamente sì, non l'ha ancora lanciato. Il tuo turno. Che allora dico... Bene, mentre gli lanci la tua cura ferite, te l'aveva detto che forse era una fine. No, no, non c'è deception. Secondo me non può cambiare incantesimo dall'Eldritch Blast in generale. Cioè, se vuole provare a curare con Eldritch Blast, ci sta. Questo è un ottimo servizio. Comunque, nel mentre ti indico i due corpi, e sono due in meno. Visto che tu cacciavi lupi mannari, volevi cacciare lupi mannari. No. Sì, no, è quello che ci hai detto all'inizio, non per il cazzo. Vabbè, appunto, dice no. Vabbè, non si ricorda la cazzata che hai detto. Esatto. Vabbè, detto da te. Cioè, senza pensare. No, niente. Il master dei background. E mentre lo curi, sentite altri ululati in lontananza. Di quanto mi curi? Ma questo background è vuoto. Il mio preferito. Grazie. Fresco questo background. Mezzo, presenta le macchine tipo. Esatto. Cioè, non può dire no. Quando eravamo a Cresca ci fa: no, andiamo, usciamo ad andare a cacciare lupi mannari. Cioè, noi sappiamo che tu cacci lupi, ma è l'unica cosa che sappiamo di te. Che cacci lupi mannari. La tua risposta è no. Non ho capito. Si può anche fare così. Va bene. Cioè, per carità, è vero che convince gli elfi che Cresca è un posto sicuro. Però. Sentite ululati in lontananza. Che cosa fate? Direi che prendo Giulio e Sfortuna. Beh, è molto peso per un'aquila. Sì. Non è un'aquila, è un'aquila gigante. Hai mai visto l'Hobbit? Cioè, Signore degli Anelli. Quanto pesa te? Quanto pesi te? 90 kg più tutto l'equipaggiamento. Sì, avrà perso 5 litri di sangue. L'equipaggiamento non è mai pesato. Cioè, non peserò sui 110-120 kg con tutto. Ma quella gigante quant'è? Scusa se non... potrà cavalcare una quella gigante lui. Potrà cavalcare una quella gigante. Di sicuro entrambi non ci stanno. Devi fare una scelta. Quale boss sceglierà? Comunque, mi dico, dobbiamo tornare indietro. Non li ho lasciati da molto, dobbiamo tornare dagli altri. Ci devi pensare prima. Adesso sono andati. Beh, lui da solo posso prenderlo, però. No, sì. Cosa? No, aspetta, tu dici adesso sono andato. Lui è di prendi lui. Fattoria. Sfortuna, dici gli altri sono andati. Scusa, ma non puoi. Ah no, perché se gli altri non puoi. Erano cerca dei lupi. Ma scusa, ritrasforma. Vabbè, torno a nano e dico. No, no, aspetta. No, stop. Torna nano, evoca degli animali. Stop. No, time out. Tu adesso dici. Gli altri sono andati e erano accerchiati dai lupi. Quando, tipo, un quarto d'ora fa avevi detto a Patk stanno bene, stanno cercando Irina. Cioè, io non so che gli ha detto questo. No, però... ma l'ha detto. A me è arrivato l'elfo. A me è arrivato l'elfo. Che ci ha detto: i vostri amici stanno morendo accerchiati dai lupi. Allora io l'ho preso lui e sono partiti. Ma io so che gli erano. Cioè, non è cambiata la situazione da quando. Io torno un anno e dico a che distanza sono da noi. Ah, poco, io ci avrò messo quanto avrò inseguito, poco. Beh, hai fatto una bella oretta e mezza, eh? Mezzo morto, gli altri. Vabbè, allora andiamo, forza. Un'oretta e mezza, ma a piedi e cercando tracce, seguendo tracce. O magari essendo qui. In Aquila qualche decina di minuti. Anche vabbè, se vabbè, proviamo. Magari la foresta più. Sì, infatti evoco dei cessi che corrono. Quanti incantesimi hai tu? È la forma selvatica quella di prima. Non gioca mai. Non ha fatto nulla. Ha fatto niente, cioè ha fatto solo, una forma selvatica. Allora, vuoi sempre fare tutto tu? Ma non lo so, ogni volta che provi a fare qualcosa non posso fare un caso. Posso fare l'evoca animale o forse il druido può evocare gli animali solo in bagno? Hai lanciato quando... Ah, perché ti abbiamo fatto sprecare. No, però forse un altro ce lo deve avere. Sì, due lo so, ne ho tre. Oh, che ironia. Perfetto. Va bene, Regis, direi che... Evoco gli animali, evoco dei cavalli, dai. Mm-hmm. Cosa di 4? No, di 8. Direi che ci possiamo fermare qui, no? Sì. Vabbè, almeno ci riuniamo. Vabbè, sì, noi abbiamo iniziato a giocare io. Potete riunirvi. No, scherzo, tiro. 7 cavalli, ma tonne, faccio una carrozza. Bene. La zucca. Problemare. Che bello, certo. E faccio andare 2 cavalli su di Giulio, 2 cavalli su di Fortuna, io d'Aquila e gli altri 3 prendo. Cavalcano tipo Jean-Claude Van Damme, esatto. Tra due. E vabbè, andiamo a raggiungere i Regaz. Ok, alla prossima sessione. Ma siamo tipo a 2 metri, cioè io, noi stiamo andando in quella direzione, sì. Loro stanno arrivando a questa direzione. Io non lo so però. Loro non lo sanno. Noi non lo sappiamo. Ma quanto metto giù sono 5 km. Vabbè. Sì, adesso noi saliamo sui cavalli, andiamo, io li guido. Adesso arrivano i cavalli anche per voi. Vabbè, per Giulio potremmo essere ancora sull'isolotto. No, per me siamo a 2 metri di distanza. Adesso Katta ci dirà altro. Non sappiamo dove siete. Cominciate a cavalcare, sentite sempre più ululati. Ma quanto male voglio. E a un certo punto trovate noi che facciamo esatto. No, siete voi tre che cominciate a sentire del galoppi nella vostra direzione. Numerosi. Numerosi. Esatto. Molti. Numerosi. Quindi sì. Dai, ci nascondiamo. Faremo la stessa cosa. Fate la stessa cosa. Fate un bello stealth. Voi datemi la vostra percezione passiva. Quando si percepisco. Boom! 20 di dado. 19. Nasconditi a questa faccia. Passiva. Passiva è 10. No, devi tirare. Tiriamo sì, noi. Tiriamo noi gli stealth. Voi dovete tirare. Vi serve la vostra passiva. Sì. Cazzo mi dici tirare perception? Passiva 25. Che ironia. Ah no, non è vero, devo fare un negativo, tirare la cosa vantaggio. Ma perché stiamo tirando? Quindi vi siete nascosti. Sì, no, certo. 19, 23. 15, tu. 23. Ok, vedi il nano e il paladino nascosti tra le frasi. Ehi, che uscite, siamo noi. Scusa, quanta è di passiva? 16. Io ho fatto 19. Wow. Quanto hai fatto? 15. 15. Ah, ok, vedi Paladin. Vardistran, siamo noi, presto! Venite a cavallo, dobbiamo fuggire dai lupi. Non abbiamo cavalli! Decine di migliaia! Vabbè, li vedo. Loro vedono te, sì. Sì, voi chiaramente vedete noi. No, io vedo Vez. In teoria lui è un'aquila, quindi... No, è tornato normale. Come hai nascosto tu? No, è tornato normale. In effetti è vero, è una prova di squadra. Questa non è una prova di squadra. Ha detto che non è una prova di squadra. Vabbè, non ha importanza, ma nel senso, lui è un'aquila però, quindi come mi dici... Non sono un'aquila, sono un nano. Siamo tornati a cavallo. Scusa, ma se abbiamo fatto la stessa cosa di prima, era lo stesso di gruppo, siamo... Vabbè, però, non era la stessa cosa di prima. Prima potevate preparare. Riconosco la voce, no? Sì. Allora, indipendentemente da chi vede chi, noi usciamo quando le vediamo. Sì, vabbè, sì, ci ricongiungiamo. È inutile perdere con questa cosa. Ci ricongiungiamo. Esatto, infatti. Ci ricongiungiamo. Ok, vi salutate. Oi. Oui. Andiamo. Siete riusciti a uscire da lì? Abbiamo sentito degli ululati. Sì, direi che non è il momento di... Vedete una maschera di sangue. In che senso siete riusciti a uscire? Qual era il problema? Direi che non è... Direi, caro barbaro della lingua lunga, che non è il momento di discutere. Presto, andiamo a prendere. Io sono ancora convinto che Strazio sia il nostro amico, quindi... Sì, infatti tipo... No, infatti io tipo quando io dicevo... Io posso fare sparire? Infatti io non credo. Ma scherziamo, ma Strazio è un grande. Perdi la concentrazione. Gli avresti dovuto agire così. No, non perdi la concentrazione. Far sparire un cavallo. Che vuol dire perdere la o interrompere l'incantesimo. Sì, se vuoi posso attaccare un cavallo che sparisce. Vabbè, lo scapriremo alla prossima sessione. Sì, vedere piccola parete di quando lui col mago comincia a dire il maligno e io dico ma cazzo ragazzi, grazie per aver seguito la mia ultima sessione da vivo. No, sperando di riprendermi e vi diamo appuntamento ai prossimi episodi di Tycoons & Dragons RIP GDR. Continuate a seguirci sui nostri canali social. Se volete sapere l'andamento del coronavirus, seguite Vets, che tra poco sarà infetto. E potremo seguire la diretta dell'evoluzione del virus. Alla prossima settimana, speriamo, con Umbra Imperi e comunque anche con... Speriamo. Vabbè. Glielo chiedi anche. Ah, scusa. E... Scusa. Vabbè, tenetevi forte perché sarò il diplomatico in Germania. È vero. Grande. Nonostante sia un guerriero. Buonanotte a tutti e alle prossime edizioni. Io farei così con un calco di gesso, facciamoci la foto. È vero, è diplomatico e guerriero. L'ha detto Canta. Io sono un po' diplomatico. Ciao Salla. Buonanotte. Ciao Marco. E